prova, fa, fa, prova. Questo qui cos'è? Con l'apparecchio che stavi cercando? Questo va meglio dell'altro. Caccia. Abbassare i volti, che stavo rompendo. E oggi? E avanti? Io li ho già a posto. Mi serve l'antenna, invece, io posso tutto non l'antenna. No, di natta, ma che posso fare? Che antenna è ordinata? Mi dici chi sei, qual è il tuo correzzetta? Gianni e Gianni. Sei? Gianni, Gianni, Gianni. Gianni l'autista? Sì. Ah, ciao Gianni. Doppio rumo, avanti. E perché ti ho tirato la Grand Prix? Potevi ordinarti una Game Master che è pompa di più. Non lo so, io ho messo tutta la roba giù, ho preparato tutto, ho comprato un mobiletto e ho piazzato tutto un peggio che va vivo. Ogni tanto scendo, faccio scaldare anche il lineare, eccetera. E ho passato i cavi, sono passato da Fusaro e c'è il catalogo della LEM, ma no, niente. Non riesce a procurarmi le antenne, dice che non fanno più antenne. Ma cosa non ne fanno? Se per la GBC ce l'hanno una che 5 ottavi costa, mi pare 50 euro, 90 euro, adesso non mi ricordo, che va benissimo, è una 5 ottavi. Ciao, 5 ottavi ce l'avanto io, non ho la mia busta, non ho detto che avevo un tubo da 6 metri, non c'è tempo di nuda in superiore, c'è un tubo da 4 metri piazzato già pronto, perché quello che abita sopra di me aveva messo una parabola piccolina per il telefono. Il pilastro l'ho fatto io logicamente, quando ho fatto tutto ho fatto anche il pilastro con le staffe grandi. Devo mettere solo un tubo da 6 metri e l'antenna, no, no, no, è voglia di farlo. Già sai voi, ti predico i telescopici che ci sono da Brico, sono già zingati e tutto quanto, con i bulloni, togli i bulloni e fate lo yoga di quelli telescopici. E la manta me la tengono bene? Sì, io gliel'ho messa, la manta ce l'aveva addirittura 15 anni con quei pali lì, però li ho messi tiranti, capito? Oh, quelli li metto anch'io, intanto io tiro a bocca di solito. Adesso vediamo, dai, fammi arrivare quest'estate, che cosa avremo? Sì, già va bene, se no ti metti un'antenna leggera, la Game Master è un'antenna che è quella che ti ha messo. Su internet cerchi Game Master, così la fai demo, così vediamo un po'. Ma la cosa leggera mi serve per partirmi, poi dopo sai che salgo per tutto il re, più che altro mi serviva anche il diplomo della 4520, ma mai ci ho piazzato tutto. La Game Master è un'antenna che va molto bene anche in lontananza per fare i DX, ha la stessa resa della Manco, va anche di più forse. Prende bene, c'è la ricezione che è trasmissione, una 5 ottavi, per cui non ha niente di meno della Mantova, capito? È un'antenna senza radiali, tra l'altro. E che marca è? Non lo so se è della LEM, la Game Master, non me lo ricordo. Comunque tu cerca Game Master. Quindi Game, come hai detto? Ma poi vai tempo, no, perché non è campagna, Marco, non incomio. Attacca da internet, no, vai te, Mose. Guide, si scrive, Guy Master. Allora, poi, no, se la prendo, almeno è vero. Ho già piazzato tutto. Ho salito i cavi da cantina, ce li ho il soggiorno. Cazzo, devo solo fare, c'è già il buco pronto addirittura. Metterli fuori, fascettarli e portarli sul tetto. Buco pronto. Tra l'altro, quell'antenna non ha bisogno di altezza di tubo e cosa, perché essendo un dipolo va bene anche se la metti in terra. No, 3 metri qua, la puccio su di sopra a me. Ma te la posso usare le tue staffe col pilastro? Ma tuo pilastro 4x4 con due staffe in io fuori il capo qui, tutto pronto per portare in avanti. Tu hai uso, ma poi mi arrivo, non mi serve più, ti ho lasciato il tubo, e poi la salì, e poi quando salgo, e poi in pratica, sono cubro. Ho preso l'alimentatore nuovo l'altro giorno, come cazzo ho preso? Il 50 ampere addirittura. Già va bene. La che è un'antenna che non è come la fa a manco perché si infila nel tubo, si mette lateralmente con quelle staffie a U. Vabbè, guardiamo noi. Io ce l'ho fatta che ho fatto 10 da tutte le parti. Anche con Londra ho parlato l'altro giorno. Me la segno, adesso non arrivo. Guardiamo cos'è. I segnali sono buoni, sono degni di un'antenna come si deve, quindi. Io sono soddisfatto, me l'ho presa io, se l'ha presa Gianfranco, l'abbiamo in due o tre, qualcuno se l'ha autocostruita, se l'ha fatta con la canna da pesca. No, la compro direttamente per faccia del mare, mi carissimo. Oh, ma Fusano non c'ha più nulla, come non c'ha più nulla la GP5, quello che c'ha te lo fa pagare un occhio della testa. Come viene da internet, guarda, costa, io ho speso 170 euro con le spese di spedizione, però è un'antenna che è facile da piazzare. L'interessante è che tu li rimetti, li porti su piano piano, a uno, non tutti in una volta, perché sennò poi non c'ha tenuta. Quindi devi portare prima il primo allenamento, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, sino a quando arrivi anche il filo è in fila, capito? Vabbè, la guardia. A me mi è arrivata, in tre giorni mi è arrivata. Cerchi i venditori che master, ti fanno vedere tutte le... Ah, ricordati una cosa, 5 ottavi deve essere, perché sono di due tipi, c'è un quarto d'onda, mi pare 5 ottavi, la 5 ottavi devi prendere, quella che va meglio, dai. A posto. Allora non la prendi, ma c'è la mia, dita come poi c'è una canna da pesca, è fatta in materiale plastico, quel materiale plastico molto resistente, resiste 160 km orari il vento. L'alimentatore che di switch, ce l'aveva una in vetrina e me l'ha mandato, era l'ultimo, dici, lo usavo solo io, ma uno 85 euro. Switching? E da dove l'hai preso? Oh, 72 euro fa di tutto, Marco, mi aveva fatto di campagna, ottava. Non lo so, da internet, anche lui, fai figo. Fa lì guardare anche con l'antenna, dopo mi dà la risposta, sembra una gazzata, no, a vederla, però va benissimo. È fatta con materiale abbastanza robusto, capito? Ma che non capisco il lineare già, il 500 in AM, da dettagli, già tre manopole, lui va bene, c'è almeno il soffa, la stessa cosa lì. Io di quei lineari lì non ne ho mai usati, io ho usato sempre quelli piccolari, dai. Quello valvolare c'hai? Sì, è un affare che abbiamo fatto con Giampaolo, io mi avevo pigliato il lineare e dovevo il baracchino con l'alimentatore. E quindi dovevo provare anche quello, lo faccio scaldare ogni tanto, tutto lo provo a ragione. E occhio ecco il lineare, perché secondo come se non lo piloti bene ti va simpatico. Vabbè, muore. Io valvolari non ne ho mai avuto, anzi sì, ho avuto il coso, il giambo, ma tanti anni fa già un barito, adesso non è da molto che non ci lo più. Il giambo non è, uno due l'avevo fasciato. No, questo era un affare, era tre pezzi, alimentatore, manchino e... Prima ma ci abbiamo visto, già un po' che abbiamo lasciato il pezzo. Ascolta, guarda sempre su internet, se metti la marca del lineare e ti dicono, ti dice tutto quanto. È quello che devo guardare, anche quello. Poi ho sceso l'Incom da 033, il microfono, SM8, cosa ne ho sceso? Tutto un altro mi va via. Tanto anche il pre originale grigio, il Lincoln, il President, un po' di roba. va bene. Ti sei attrezzato? No, non come che ci avremo a casa di mamma. Io avevo prima avevo tutto, capito? Poi è cominciato da fare autista, già la faccia all'altra, ha incascettato tutto, intanto tanto già Paolo per un paese. E quindi alla fine che ho mucchiato un sacco di roba, adesso c'ho casa mia, va per tempo, capito? Sempre guidando stai? E mi sono in piazzale adesso, ho detto anche scendendo, sono arrivato a lavare la gara. Qualcuno già, poca roba. No, non metto come prima, mi prometto, tu l'ha salutato, e poi chi c'è? L'abbiate espresso, no, viaggiai un po', dai, ma non molti. Perché c'è uscito quella cosa su internet, quell'app? Come si chiama? CP Talk. Oh, il camion li ha messo ancora, ha attaccato pure un fortunato l'altra di agenti, a voi. Oh, già, io sto scendendo, ci sentiamo la prossima, vai. Ciao, grazie. Ciao, ciao, già, ci sentiamo. Chi è là? Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Lucretta, tu sì. Attento, Lucretta, ci sì. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Buonasera, chi è? Ehi, a che basso che sembra? Come mai? Ti sento bassissimo. Toccato da che cosa? Avevi un bel basso. Sei per lo QRM. Ma io arrivo basso. Tu già lo sai che non arrivi basso. Anzi, se ti capire che è ancora meglio, che sei troppo fuori. Siamo pure ecco? Non ci ecco io. Non è Checco? No. Penso che sei per fuori. Quando parlo a Franco mi tocca alzare, quando parli tu mi tocca abbassare. Sei un bel forte. Si vuole un poco, lei, si vuole un poco. No, lascia stare, non c'è problema. Adesso Franco, voglio volare, ragazzi. Se fossi stato con le cuffie ti avrei detto il tuo. Ma vi ha assordato. Non è vero, ti sei riposato già. Sì, io ci sì, perché ho lottato. Mi si è allagato di nuovo il bagno, un cazzo di bagno. Deve essere... Io ho messo praticamente quell'affare che fa scendere l'acqua nella cassetta, gliel'ho alzato e l'ho incastrato per lo fa scendere l'acqua, invece che si è mosso e di nuovo sceso. E già c'è fatto due anni allagato, torna uia, carità. Chiamo l'idraulico, non ho neanche l'idraulico, che non lo rispondo. Se non se l'ha abitato un coronavirus, perché ci aveva influenza, mentre già dovevo avere lunedì, non ci vengo oggi perché ho la febbre, la tosse, la freddore. E dove si è fatto bene? No, ancora no, ma già vi passo, sarà la freddore. Poi il cazzo l'ho preso l'altro, perché non mi ha chiamato, l'ho chiamato 50 volte e non rispondo. Meglio che non lo chiami allora. Se no ti conta già il telefono. No, non lo farò venire a casa, sei così come ho detto, meglio evitare. Vabbè, cosa ti dici? No, io gli sai dire, avanti, parla, alla con muro. Ho mangiato un brodino di mammo, e quindi così c'è Uia. Finito di là. Cosa vai, se scendi mani, cazzo, non è un malacchio, come Dio comanda. Adesso va bene. Lo sento bene. E mi hai scelto... Cuocone! Confronto stamattina sta scendo bene. Ehi, ponete un cappellino. Basta attaccare... Non ce l'ha più il Kenwood, quello 50, quello... Quant'era? 50? Come si chiamava? Quello CS50. Modulavi con quello ci fico una bomba. Ehi, non se ne fa tutto, no? Non si ne fa sentire anni. Se quanto vuole questa cosa? Non mi buca 100 euro, ma di no. Ma vuol dire, mi sa di più di 100 euro. Vabbè, tanto... Sarà da un tempo fermo. Io ho sempre il famoso Typhoon che era tuo, lì nella mia 25, quello non lo do, manco se mi danno 7 milioni di euro. Poi si era un po' graffiato, l'avevo tutto lubrificato, perché c'era la vernice quella, non so, come va chiamata, martellata, boh. Poi adesso è tutto da rifare anche tu. Adesso, boh, vediamo, mi sono andato a Roberto, se me li fa pagendi, li posso fare, beh, perché poi ci ho appoggiato il microfono, lì ho vernice attiva, bomboletta. ho appoggiato il microfono, ho faccio tutte le impronte nei piedini. No, è asciutto, tu sei invitato. Però quello abbinato con l'MB più 4 è una bombetta. Cazzo, che bello questo. È bello 4005, cioè va Stefano modificato. Sì, vabbè, è tirato di watt. Poi c'aveva l'M300. Bello, 4005 è mezzo un bel. Questo va forse un Typhoon, tu. Typhoon 2 però, K. C'è quello lì anche, sì. Eia. Piccolo e nero, no, è modulazione si diceva, sono piccolo e nero, mi faccio solo sentire, va, scappa. Poi ho appurato che questo apparecchio prima meglio volo. Col microfono normale, dai. Fa la voce tua e lo stesso tempo non lo rompo. E invece se li metti altri più tardi, più forti. Ma se capo il cazzone? Il cazzo buono, fa uscire una bomboletta. E quello che ci avevo fuori. E avevo le camparate. Che vede che... Da dentro. 100 euro già, mi vale poco troppo. Ma già costa dopo, 300, 400, 400, meno baracchino così. Non lo trovi più. Luca, quello è il problema, non lo trovi più, no. Io facevo prima, adesso. Sai qual è Anto? Quello da tavolo che c'ha. Penso che sia da tavolo comunque. Che c'ha il tasto rosso, che c'ha l'eco, mi pare puro. Ma la roba che ho io, Luca, non è. Né non ha le odore di fumo, né sporca. È tenuta maniacalmente, cazzo, cioè non c'è un graffietto, niente, è sempre nuova la roba che tu hai. Antonio già lo sa. Ecco Master Blue, un flessibile. Quello lì è proprio quello che pompa forte. Niente. A chi non vuole se no rimane. Già, sai che io qualche anno fa volevo vendere l'MB più 4 con il Typhoon, poi dico, ma che prova si fa? Ma produce il logo con 150 euro, perché si vi vale, noi non si vi vale, ma non lo tocco. E che dico, vabbè, un magnolidina, ma non me la futti nulla, no, rimane in chivi e non mi domanda nulla. E io ci sono andato a mettere in moto la macchina e mi ha segnato la chiavetta per fare tagliando. Cazzo, adesso ci avvisci un po'. Quella era la panina. No, è la spia praticamente la chiave inglese che piace quando devi fare il tagliando. No, mi stavo uscendo adesso, come l'ho messa in moto mi scende la chiave. Allora, ragione del tuo, sai perché? Perché Marina la portava fissata, portarla da Ford la macchina. Cazzo, ogni volta due colpi di 300 euro, 250, 300, ogni volta. Cioè, ho fatto la frizione da un amico in gamma veramente che tanti anni che fa il meccanico. Cazzo, la Ford me l'ho detto che c'è questo, c'è quello, c'è il cambio, c'è problemi al cambio, sono al più di 2000 euro. Cazzo, non si vale la macchina. Ma c'è questa qua, con tutti i rumori e che ballacche, è sistemato. La macchina, faccio la frizione ovviamente nuova, 630 euro. E chi dà oltre 2000 euro? 630 euro di frizione, sì. Perché facevo un rumore, quando stavi camminando, cioè stai camminando, praticamente cosa faceva? E quando giravi le ruote verso destra faceva una cosa così. E poi stavo con i cuscinetti. E poi il meccanico certo non c'era olio nel cambio, cioè alla Ford non si sono accorti che la macchina non aveva olio nel cambio. Ma non è da cagare, ammazzetevi. Ma è un bel 1630, io mi ricordo sulle 350 si pagava, la frizione, sulle 350 massimo 400, poi 630 è un bel mantello. 630, poi gli ha fatto altri lavoretti, cambio olio, filtro, tutto quanto. Ah, ecco, allora basta, allora non ci metto lingua, però fare la frizione solo 630 è un bel. No, solo la frizione, no, cambio olio, filtro, poi gli ha saldato un coso, non so, comunque la sua macchina a posto già. Saltavano le marce praticamente, dai. Quello ha dovuto alla frizione, invece chi si dà la volta, c'è questo, c'è quello. Così voi volete rimagnare di sotto, che è sotto 2000 euro, si va la macchina, so che si vale 1000 euro, 1200 euro si vale, e tu ne vuoi 2000 ma poi la porta del motore. Infatti ho detto, non gliene portare più, va. Poi cioè, hai preso un appuntamento, hai fatto scendere giù, dobbiamo prendere un altro appuntamento, ma cazzo non siamo a comunicare due anni. E meno male, poi mi ha ascoltato e ha deciso che comunque non la porta più lì. Vabbè, ma dopo che finisce la garanzia lo puoi fare, il calame è garanzia, se per dire mi succede qualcosa non me la fanno in garanzia se la faccio da un'altra parte, devo fare per forza di... Sì, tu sì, una volta che finisce la garanzia la ragione Antonio a portarla da un altro, uno bravo, comunque se vuoi te lo faccio conoscere io, uno bravo veramente, ma bravo, bravo, Giuseppe in gamba a vedo, C'è a Franco che è un campione, certo, facendo molto, e all'officina piccola ma è bravissimo. Quello di fronte allo Smeraldo. No, Giuseppe c'ha l'officina a Lancia sua via Venezia. Sarà? No, è vicino a casa, Franco ha l'officina piccola ma ha le mani d'oro facendo le macchine. Me le ha sempre fatte bene a me. Vabbè, comunque Giuseppe è molto bravo e molto attrezzato. C'ha il ponte, c'ha due ponti, no è bravo, guarda, fidati, è molto bravo, sì, è una persona onesta, perlomeno, quello che sì, vabbè, è onesto, non c'è da dire altro. Vabbè, la tua, quanto tempo ha la macchina tua? Bene. Nuovo. Avanti, a forza merenda, cazzo, ci vuole più, come ti dice, a brincarmi che a girarmi intorno. È vero, il mio parco ha bisogno di mangiare. Sì, pergolo, io lo chiamo parco, è più umano. Adesso, con coronavirus, si stacca e si ingrassa con il tipo, non si sente più mai niente. Si stacca nulla e dopo devi andare a farti il pizza. Oh, yeah. Ma io in una settimana ho fatto un report. Guarda, comprate tutto e portare le prese di quell'acqua. Non parlo di tutto. No, io ho preso l'acqua, ho preso mozzarella, ho preso fagioli, ho preso la frutta, la verdura, tutto tanto, la carne. Insomma, non ti dura tre giorni e poi non te ne vivo. Dura tre giorni. Lo so. Ma diciamo che siamo fermi anche, infatti è quello, se mangi molto, dopo ti ingrassi tutto. Io come ti posso a fare il tapirulan, che l'hanno fatto loro il tapirulan a me alla gamba. Mi hanno operato, l'ho saputo, sì. Ehi, già sto camminando, sto già camminando, mi sono seduto in macchina, ho messo in moto, eccetera. Qualche passo in più lo sto facendo. Prima camminavo solo con le stampelle, poi quando mi alzavo dal letto perdevo l'equilibrio, dovevo mantenermi se non tornavo all'indietro. Guarda, una cosa così brutta. All'inizio stavo sempre sverente, i primi giorni che ero a casa svenivo, se lo debole come un coso. No, perché avevo il ferro basso, come mi hanno operato, mi si è abbassato il ferro, mi davano il ferro in pastiglie all'ospedale. Sono tornato a casa e invece di prendere le pastiglie, sai cosa, mi sono preso carne di cavallo, di quella bella spessa, e carciofi, legumi, fagioli, salate di fagioli, ma non sai come mi sono ripreso. Chi è? Positivo, dai, guarda, uno dai uno, che è va bene, fra, come prima, dai, come stamattina, sta freddo qui. Adesso io metto la mattofana a tubo e non va bene, cioè, va bene, ma meglio passare il filo della mattofana, no? La mattofana è tu di quale mattofana? No, non era due a chissà, no, è nuda a due. No, chi era mia chissà, la sua è qua, quindi se vuoi dai la tua. Ma ti ho fatto apposta, il bambino di Silvina. Io ci sono sempre, non mi sfuggite mai a me, te lo sai. Come fate a mettere una pietra da Matessi? No, ma tu, quella che c'è a casa di Gianni me la devo ritirare io, e quella di Gianni qua è... penso che la sua la debba dare a Luca, penso. Quella mi devo fare risaldare il cavo interno che c'è. Ho tempo perso e me la tengo di scorta perché è nuovo quel piantone. Dagliela già Antonio, se no dagliela. Ma no, è di cosa? Ah, io stavo scherzando, dai. Ho fatto proprio se c'era Claudio nascosto. Allora forse non mi sono spiegato bene, quella che c'è a casa tua è la mia, quella che è qua, che ho io è la tua Gianni, quindi quella che è qua la puoi dare a chi vuoi, ma quella che è a casa tua è la mia, mi serve a me. E beh, sboccolata quella lì, cosa si deve fare? È tutta sboccolata. Antonio, cosa ce ne fa? Quello che devo fare io, le metto le ghiere nuove dentro di alluminio e le innesto i radiali. Esce nuova nuova, però quella che ho io, quella che ho dato a te e a casa tua, quella serve a me. Infatti l'ho detto a Luca quando è, speriamo che passi questo cazzo di coso, passo e me la ritiro, perché quella mi serve a me, me la tengo di scorta. Me ne vado da Roberto, la riapro tutta, risaldo il filo e me la tengo di scorta. Quella qua è tua, quella che qua è la tua. Quella ci fanno le boccole nuove, l'alluminio ce l'ho già, della stessa misura, vanno inserite dentro col martellino di plastica, un tacchettino di legno e poi va inserito il radiale e messo le viti nuove. Capito? Col martello di plastica o con un tacchettino di legno e poi ci mettono le viti autofilettanti per bloccare, non passanti, autofilettanti, ed è una canonata. Non lo so, mettiti d'accordo con Luca, con Gianni, quella è roba loro, io il mio è da Gianni, mi serve a me. Quello che ho io è funzionante, mentre quello che ho da Gianni, quello devo aprire, fare una modifica e saldare nuovamente il filo perché si è attaccato. Capito? No, è stata una disattenzione, io l'ho preso così, l'ho tutto pulito, ho rifatto l'avvolgimento giusto, tutto ordinato, siamo andati a piazzarli e non esce, perché c'è il filo attaccato. Non c'è una ricezione, trasmissione. Capito? Però quella che è qua, che è di Gianni, è perfetta, non c'è niente da fare, c'è da fare solo la cosa, come si chiama, la spirale, che è quella una stronzata, e basta. Poi ci mettono il radiale in alluminio, della dimensione più grossa, non ci bisogna manco di boccolarti. Non so, mettiti d'accordo con loro, per me, è qua a casa. Ma infatti già, se decide Luca, appena passa questa bufera si fa questo lavoro. Se poi vuole farsi fare l'antenna in fibra tipo Game Master da Luca a Flipper, allora è un altro discorso. Allora quella lì, siccome è roba tua, l'hai promessa a lui, mettete d'accordo, la date a Antonio se serve Antonio. L'importante è che si usi. Allora già la tua, se ti ricordi, abbiamo fatto tutti i radiali nuovi, quella fuori abbiamo fatto, purtroppo è stata sboccolata perché se no non entravano i radiali, che c'erano i pezzi dentro, non riuscivano, manco a morte. Sì, me lo ricordo, ma la boccola si può rimettere, non c'è problema per questo, che tu te la puoi piantare da mattina. Facciamo bene, già, adesso il tempo è quello che è, non si può fare nulla. Quindi ho detto come mi ha dato l'input Antonio, anziché boccolarla, ok, con il calibro prendo la misura, vado da Bricom e prendo i radiali da alluminio leggermente più grossi, più larghi, ok, si entrano a forza con il martello in plastica, una martellettina in plastica o con un tacchettino di legno, e poi ci mettono le viti autofilettanti, non ci bisogna manco di boccolarla. Si può fare anche così. Allora, se io stavo pensando, se si fa la Game Master, se me la fa Luca, non lo so, se me la fa io la piazzo, altrimenti quella lì però non la metto molto, molto alta, ma al massimo un palo da 2 metri. Ma va bene, ma cosa di nafuti, ma quella manta va fuori così, arriva a tutte le parti. È una bella zona quella, stai scherzando, ehi, non voglia, non problem, ehi, lasciamo passare questa cosa, io ti ripeto, quella che c'era Gianni mi serve a me, quella me la metto a posto, me la tengo di scorta, poi tutto il resto, se i radiali in fibra non li usi, me li prendo, li conserviamo, servono sempre, e ti metto quelli in alluminio leggermente più grosso, in modo che entrano a forza senza bisogno di boccolare, si dà una pulita con la lima tonda prima, per farli scorrere bene a misura, per togliere tutte le bavature, ed esce un capolavoro. Via, non c'è problema. Adesso vediamo quando finisce tutta questa cosa, e poi vediamo e decidiamo. K di Rosmetro, vai Anto. Già, lo sai, offendi nobili, eh? I pancake alla Nutella, ma quando me ne mangio uno? Oh, ali grazie, Gemmo, che c'è ancora da più, se poi te ne mangi e basta. Io ho fatto la torta con la ricotta e uvetta, sta buona, eh? Buona, veramente, non perché l'ho fatta, ma ci da buona. Un forno e ha fatto il suo dovere, ho fatto l'impasto e basta. Solo che purtroppo, io sono a casa, la mia 25 se la sta mangiando lì a colazione. Tanto io ho 88 kg, ne peso 84, sto dimagrendo quando sono a casa, però stasera mia figlia ha voluto fare questa cosa per merenda, ma ha fatto buona merenda, sono 6:30, adesso l'assaggio, magari me ne mangio uno dopo cena. Poi ho dimagrito 4 kg, perché sto mangiando un po' di verdure, legumi, capito, poco pane, poi non sto bevendo niente, perché sai, quando scivo il bicchiere del vino, la birretta e queste cose così, invece niente di tutto ciò. Vai Giannetto. Io manco quando esco bevo. Regolato, e così a pranzo mi sto mangiando, e cercherò di mangiare la cosa, non lo faccio la pasta di cacio, perché è appena tagliato, speriamo che un amico che è appena tagliato la campagna, due me l'ho lasciato da mangiare con lui, e gli altri ho fatto la pasta di cacio, ma se no non faccio mai più, lo faccio la domenica. Vedi anche qua, primo, secondo, lo facciamo al ristorante. Oggi lo stesso legume per esempio a pranzo, stanotte non lo so cosa c'è, forse delle frittate, delle cose del genere, non lo so, comunque sempre a base di verdure. Vabbè dai, vado ad assaggiare questa cosettina, ci sentiamo dopo, riprendi Anto? Sì, certo, allora, ma mi ha detto guardi, ci dice a due possibilità, o da via Ramalfa, Regione Balcone, oppure da Regione Balcone a via Ramalfa, deciderei cosa vuole fare. Aspetta, se hai animali puoi andare, se no nella seconda casa non puoi andare, c'è l'ordinanza. Seconda casa fuori dal tuo comune, già, Ragione Antonio, fuori dal tuo comune, se avessi avuto la seconda casa a Porto Torres non ci potevo andare. Invece come Comune di Sassa si può andare, però è vero anche, come ha detto Gianni Antò, che se hai animali hai la possibilità di viaggiare, ok, io da qua posso andare tutti i santi giorni in campagna a dare a mangiare gli animali e tornare, ok, solo io animali da dare a mangiare non ne ho e quindi devo rimanere secco e presto. Sto decidendo, Antò, mi sto rompendo le palle a stare qua, se questa cosa passa io aspetto sino a fine mese, se non passa biglio rivagagli e me ne gioco a lenti. Sì, sì, la stessa cosa mi ha detto a me. Deve decidere se rimanere lì o rimanere là. Ho detto, non lo so, decido. Decido. Comunque, il permesso ce l'ho. Il permesso ce l'ho. Adesso vediamo. Anche perché c'è molto freddo questi giorni. Se cambia la temperatura, inizia a fare un po' di caldo, allora sì, se no rimango qua. Va bene, dai, Bianco per me, ci sentiamo dopo. Riprendi, Ugarie. Eia, è un casino, grazie, un casino. È un casino. E vabbè, dai, già passerà tutto. Io la seconda casa ce l'ho fuori, sul robuzzino. Avanti, Black, K, quanto l'hai copiato? Eia, è un po' grigio, la zona da Cappuccino, la zona lì, con un portatile. Avanti, Gianni. Eia, ciao, un po' grigio, ben sentito, ma... Avete sentito che ha cambiato di nuovo il modulo? Esatto, ma cioè, io oggi ne ho fatto 10, ce li butto via, ne ho buttato via già altri che ne avevamo fatto. Insomma, è inutile che si fanno questi moduli per cui cambiare ogni giorno. E che cosa c'è scritto? Ma chi non si ammazza, secondo me. Quindi tu te ne fai altri, te ne fai 10, di nuovo lo cambio. A me ne servono di più, uno per portare giù il cane, uno per andare dalla dottoressa, uno per andare all'ospedale a fare la visita, me ne servono di più. Ma io so che li devi presentare già compilati, loro ti mettono la firma e se lo tengono per verificare se sto andando veramente. Io per dire la stampante non ce l'ho perché mi si è guastata e poi non l'ho più comprata, perché tanto l'inchiostro si asciugava perché la usavo poco. E niente, non l'ho più comprata, non mi sembrava utile. E allora non le ho più prese. Costa una barca di soldi di inchiostro, si asciugano le cartucce, eccetera, eccetera. Quanto sta che non le ho più prese? Me l'ha fatto un altarino, me ne ha fatto un po'. La prima volta, la seconda lo stesso, me ne ha dato altri due colpi. Adesso la terza volta me l'ha fatta con la capita di fronte, me ne ha fatto un po'. Me l'ha dato mattina, adesso di nuovo a cambiare, ma insomma, cioè, fare un controllo, ma non è una cosa, adesso per dire io devo andare a fare la e mi devo rimbalzare sia di quanti, sia di e la presentazione, devo presentare il qualche bisogno, perché quelli dell'ambulanza non devono essere sicuri se tu c'hai il coronavirus o no, dichiarato che tu non hai fatto mai tamponi, eccetera eccetera. Poi puoi averlo, magari puoi essere una di quelle persone che non ce l'ha però che lo contagia, ci sono anche qui. E beh, se non hai febbre, se non hai sintomi, almeno che tu sia una di quelle persone che lo contagia e basta. Da Uni Roma, non per venire in Roma ci mette la barca goccia, quella via a mezzo pure la parte, però da brava, da quindi mi arrivano dopo, ti arrivano su buon punto, ti arrivano su buon punto. Ehi, scusa, tu l'altro, mi scusa, cosa hai? Mi pare che mi arrivano con 100 euro in 10, non mi ricordo quanti anni è, non mi ricordo. Ah, sei buffi, l'attacca, a Chichi, ma però. Subito per esempio tu nella luce, da, però... Tu chi, Luca, se te sono modulato, Antu? Sono modulato, Antu. Sa che camionista. E chi mi dà bubù zocchi, la mazza. La luce non fa di confessione, però c'è tutta la tipa di palle che sto capisce. Poco pallone, mi devo cacciare di coglioni. Aspettate un attimino, voglio vedere se mi ascoltano questi qua. Attenzione collega, se ascolti Italia Nord Sardegna che chiama, cambio. Ma se potete arrivare in su, ci saranno i vestiti scorciati, non ti intendete, manca a balla. Siciliani, siciliani sono già, Indu, Indu, siciliani. Dopo poi va a vestire qui. Sta passando. Attenzione collega, se ascolti la città di Sassari, nord Sardegna. HQSO local. Chi ci ma però a chi? Ma cosa c'è nato il 2009? E come 555 è quello della Midland. La Midland ha fatto il 555, ha fatto anche la stazione base. Ah, Cavagava, ma qual è l'ultimo che hai comprato? Quello che ha fatto lo scambio col computer, Cavagava. Attenzione Sicilia, se ascolti la Sardegna, cambio. K dai, 7351, la stazione doppio ronda, la città di Sassari, operatore Gianni, avanti. KK, tu mi stai arrivando con un Santiago di 4 e una radio di 3, dai. La propagazione ancora non si è aperta bene, non so come ti stia arrivando io, avanti. Avanti, mi chiama Sassari, è positivo, avanti, chi sei? Aspetta, Gioia Tauro, a me mi ascolti bene, a me mi ascolti, Gioia Tauro. Attenzione, Gioia Tauro, si ascolti Luca qua, Gappa, coordinate Sassari, Nord Sardegna. Dallo anche a me, rapportino, collega, 7351, dai, avanti, Gava Gava, dai. Va bene, dai, tu invece arrivi 4, la Santiago e la radio è 4, dai. Ti ascolto bene lo stesso, non tanto bene, ma ti sento lo stesso, dai. Non è ancora aperta bene la propagazione, come lì in Sicilia? Franco. No, qua c'è freddo, c'è una giornata un po' uggiosa, dai. Va bene, dai, vi saluto tutti cordialmente, la settimana di Paletta, e ci sentiamo, dai. Buona serata a tutti voi. E Franco. Crocro, ti scendi un sonno, no. Avanti. Ecco, la presi erano. Sono ignorante in materia. Ehi, è così, un po' lì. Avanti, Franco, avanti. Va. Antonio, avanti. E quindi sarà io, parla con Antoine Show. Via, via. Non c'ho nulla da dire, mi abbalano io, cazzo, per questi. Sì, tanto domani è venerdì, mi tengo la TV da smontare così, ci mi occupo dei pezzi buoni, i LED sono buoni, sono 4 strisce, nuove, da. Usate ma nuove. E poi, faccio da fare. Mi sa che mi sostituisco anche a Roberto Albedì, che ce l'ho, nuovo. Ma nella prima chiacca non sono andato? Ciao, non mi fido, non è che lo vedo, non è che... come si dice? Non è che mi fido, ma se c'è a prendere una multa, la cosa è di chiaro, questa è una casa sua, non ci posso andare. Siamo in macchina, infatti. La macchina non c'è. No, da quanto ho capito mi avevo detto che se hai entrambi la patente non posso sedere. Devo essere da solo. Non ho capito. Ho detto, siccome la patente ce l'ho anche lì, no? Di solito guido sempre io. Allora se ce l'ha, abbiamo entrambi la patente, dice che non si può, uno solo e basta. Così hanno detto, così ti dico. Io so che quando sei in due, uno che mette il biglietto dalla parte rossa e dall'altra parte, quello che c'è la distanza, sì. Sì, però se entrambi hanno la patente, cioè se anche lì ha la patente, no? Praticamente non può sedere. Vedi il mio caso, io non posso guidare, io la patente ce l'ho, l'altro che non può mettere la patente, allora io non posso guidare. Di tu mi dai. Oh, so quello che ti dico. Avanti all'olio. Che avanti? Anche la birra stai bevendo, c'ho anche la birra. Non c'ho patatine, insomma mi è venuto un bicchiere di birra adesso. Mi sa che mi mangio il crack, sotto basso di Luis sta Ianna. Il crack sottilette. Campo si sci. Sto con la Ianna, ma passami il crack sottilette, sta Ianna. Ho detto, ma adesso tanto che ma uso la porta, ma glielo dico di passarmi, fate biscottate non passano. I crack le sottilette sotto la porta, la pizza, posso dare un po' di tre, se adesso c'è una cannuccia. È vero. Speriamo di riuscire a guidare, ma da farmi un po' di specia io, perché quando vanno gli altri non si azzeccano mai nulla, gli ho detto io col sincero e me l'ha abitato di quello bianco. Ha giudito un cristal di pollo, ma ha abitato vicino di manzo. Gli ho detto, insomma, non me ne ha azzeccato uno, diciamo, tutto. Ma non li puoi dire tutto perché ti fanno il favore, mica li puoi dire niente. E gli ho fatto l'elenco, cazzo, meglio di così. Non me ne piace intero perché rimane più compatto. E di quelli da mezzo chilo, io corso da mezzo chilo, ho detto che non ce n'erano, me ne ha portato quelli piccoli che con la lingua facevo io e me li mangio tutti. È andata Liliana a farla da Eurospin, l'hanno bloccata, gli hanno detto se ne torni indietro che lei è fuori zona. Ma dice vicino a casa non c'è niente, non ci interessa, è fuori zona, lei deve andare al negozio più vicino a casa sua, poi tira le mani da lì. Carabinieri, anche la mia, San Paolo io. No, io già pago anche con la carta, no, io vabbè, mi faccio l'estratto conto, mi prendo la carta. Però pago sempre con la carta quando vado a comprare, anche per chi mi dà lo spinto, arrotondano adesso. Se ci sono spiccioli, gli spiccioli non li contano, o li danno, o te li danno o te li prendono, quelli che ci sono, non te ne danno il resto di spiccioli. No, io non li ho. Qui sotto di Gianni, chi è avanti, chi è vuole entrare? Aspetta, tu stai rompendo le scatole, boh. Sì, anche c'era un bip sotto Gianni. Cosa? Aspetta che c'era un bip sotto di te. Vero. Sto bevendo la birra da Strasuso con la fatta in Sardegna. Cioè, con un po' lo sacco. Cazzo, anche a me piaceva la birra. Sì, ti sembra, Sì, io l'ho presa, vabbè, te la metto un amico, la paga di meno che c'ha un circolo. Cioè, mi costa 1,50 euro la bottiglia. Oppure quando è in offerta lì alla Auchan, la prendo. Sì, è buona quella birra. D'estate, guarda, ci scende come l'acqua, ma buona veramente. Oh. quale fibra? Ah, davvero, l'ho filtrata già dall'inclusa. Ah, dall'inclusa. No, io prendo quella normale, mi piace quella normale, ma non filtrata la prego, ma non mi piace. Boh, la statura è buona, se non è molto gasata. Già ne bevo poca, già ne bevo poca. L'avevo mangiato la pizza, magari, non è che c'è di più, non stava sempre da poco. Laboretti, qua giù, Laboretti, che peduco, io la sistemavo, non lo so. Io ci avevo con le pattuglie, ci avevo birra, acqua, arrivavo fino all'Aperol e così Campari, arrivavo fino a Campari, fantastico, con la compagnia, poi io ce l'ho preso, il cardinale mi piace, è stato con l'aranciata massa, no, io Campari qualche volta mi sono conosciuto, però vado a fare la spesa qua da Rita. C'è il mare, conosco la città, è così, è stato un ferro, è una cosa che mi ha detto Campari, adesso c'è il del Salento. Mi piace Campari del Sud, mamma mia, il Moncello, ma fai dai. No, mi piace una sussa, una voce, mamma mia, quasi un giro tondo, quasi, ma carità, no, no? Tino Muscolo ci sei, però mi hanno tutti sei di chi di, ti amavo di sei altre mezzanze stavate in TD. Beh certo. E anche io dovevo, l'anno scorso però si può dire, non dico in stagione, ma già stavo lavorando, stavo aiutando un amico a fare plate sintetici e girava tutta la Sardegna. Beh, Campania ce l'ha sempre da fare, ho voglia. Una volta l'hai presentato, ma qua in zona, cioè in zona, dico Budi, la zona lì. Già è bella la campagna, non molto grande, molto grande, grande, grande, no. Te va un cavolo. Una campagna normale, diciamo, Ma che zona lì Antenna allora? Io ce l'avevo una mantova, un capuzzino. Se la uno, a chi non l'avevo data? E il morso, dai. Certo, copio di mazzetta. Ma dov'è quel cuomone di Claudio? Quel cuomone di Claudio non c'è? Quel cuomone. Claudio, pancacche? A me piace un bel tosto, mamma mia. Adesso, visto che sono a casa, sai che me la compro la... Non ce l'ho quella. La mia 25, sì. Infatti li facevo ultimamente, il tosto. Per merenda, tu. Per merenda, un tosto, e ti do. Tutto è buono, tutto, ma se mi sono bello. Poi senza l'orruio, vabbè, però la... No, mi vuoi stare io, vuol dire, senza l'orruio, lo bianco me l'ha preso. Il mio percolo. Ok. Vabbè, da. Poi c'avevo anche io l'antenna, tu. Quella, poi se non andava più, quella uguale alla tua. Sì, mi sento a razza, ma non rendevo. Allora, Luca mi ha costruito, mi ha messo un radiale di Mantova in questa basetta in acciaio. Sto usando quella e va bene. Io mi ricordo che era sul tetto, però non mi ricordo se sarebbe stata. Vabbè, sempre una camicia da due, nel senso sempre un bel tetto, però si più avanti così. Cazzo, là c'erano un po' di anni, vabbè. No, vedi tu se. Comunque noi ci siamo, là. Io ho sempre modulato di meno perché poi alla fine non c'era più nessuno. Intanto entrava Gianni, così Claudio. Poi era morta la frequenza, adesso di nuovo si è ripopolata. Sai chi è rientrato dopo anni e anni e anni? Tonino Kawasaki. Sì. Pensa se c'è Tonino Kawasaki, ci sei. Sì. È rientrato, sì. Cazzo dice tu, il Tonino. Dopo anni e anni e anni ha deciso di piazzarsi il baracchino. Campagna abita. Poi si conferma, davvero. Sì, è... in campagna tu. Si è messo una 5 ottavi. E arriva bene anche. Se non mi sbaglio era in via... Non è via... Aspetta. No, via la Marmora, no. Via la Marmora, mi sa. Io ci andavo spesso dai Gnazzi. Anni che furono. Anni passati, purtroppo. Vabbè, adesso mi dico che ha raccontato, va. Perché io la prima stazione non ce l'avevo, mi aveva venduto tutto a Piero Drago. No, io a lui, chi aveva venduto l'antenna? era un'antenna che c'era solo la, lo stilo centrale con adesso mi ricordo, una LEM mi pare, boh. Perché facevo TVI e continuo. Allora, mi sono rotto le balle, ma mi ho venduto tutto per prendermi la moto. Sono mancato quello un po' di anni, poi di nuovo è venuto il pallino e ho ripensato tutto. Sì, sì, allora è fan, funzionano bene. Non lo so. Beh, tu devi comprare tutto, mi sa che lui vuole 30-40 euro per farti tutto la, il cavo, la, tutto la maladama. E funge, cavolo. Vabbè, fai con. Questo, fai che cosa ne so, 20-30 euro ti prendi le antenne, non so ce ne hai già, però le antenne, le canne da pesca. 60 euro la fai a tu. Se vuoi glielo dico. Non lo so se lui mi sa che lui vuole per farti tutto il blocco per. Te la assembla, no? Te l'assemblata. Vuole 30 euro, mi sa, e non sono sicuro. Lo sto chiedendo, se mi risponde, io nel telefono con le femminucce. Ci va di mani già. Avanti. Sì, bassissimo, segnale 3. Sì, te l'ho detto, basta che metti, cosa adesso, anche una tela di macchina. Ammassa bene, esci bene. Di niente. Con Nicola. Cappuccini. Sono un po' fatti, Dove sei Nicola? Non sei Cappuccini? Nicola? Sì, a tu. Arrivano, sentiamo tre a me. Sì, a... E lì zona Cappuccini, dai. Secondo dove si mette, ma con Gianni lo sente. Cosa vuoi ti dica? Io molte volte non lo sento. No, non c'è portati, vecchio. Sicuramente. Ma dove l'ho visto tuo fratello con tua madre e tuo padre, qui alle porte. E a te mi viene a portare i miei genitori. Fare dei fogli, boh. Vabbè, non ti seguo, purtroppo la vita è così. E cosa devo dire a mamma che grazie a Dio già cammina, lei non cammina, però le sue patologie sono bucata. Allora, non vecchiamo loro crescono. Va. Cos'è? Rottamami. Allora. Boia. Vabbè, dai. Sai cos'è? Ce l'ho la birra, mezza bottiglia, ce l'ho portata a pranzo, non me la bevo tra, ma ok, d'estate sì, chi d'estate me la crepo, all'inverno qualche bicchierino così, non si vuole bene tanto, ma quella lì me la bevo a cena, mi sa che mi fanno la pizza stanotte, me la prendevo ogni settimana, aspetta, tanto ce ne hai le canne da pesca? Ce ne hai le canne da pesca? 35 ha detto. Mi hanno di quello, non li posso fare. Aspetta. Meno di 35 non li posso fare. Meno di quello non li posso fare. Capito? Ah, guarda, c'era Torre Squalo, ha detto che va benissimo. C'era qualche anno già, ce l'aveva fatta lui. Forse non te lo so dire. Torre Squalo è rimasto contento. Se no, non lo so. L'antenna sembra così, ma se è fatta come Dio comanda, già conta molto. Conta un bel, non molto, un bel, anche se c'è un baracchino da drenzi. Ma tu? Ti darà un abituale più chiaro in... Aspetta. Allora, il numero del mobico c'ha solo l'etichetta dell'omologazione, ma non c'è il marchio, c'è. Allora, informati del mobico, Manto, se hai visto che devi chiamare. È un casino, cazzo, sti baracchini. Io ho l'ala 34, no, non è l'ala 34, l'altro che non c'ha né MKGR, come si chiama, Alan, che offerte lo stesso. Sì, l'ala 34 ce l'ha, adesso non mi ricordo quale, ma avanti là. Come non ha giudici problemi? Allora, volevo sapere, siccome lo stava spiegando Tino, doppio SVL è un foglio per cosa? Per detenere un ricevitore HF, basta. Ah, ricevitore HF senza, anche se un Kilwood o tappo? No, ricevitore non lo puoi tenere, a norma legge, ricevitore, chiuso, non ve ne tappino. Ah, ho capito, ricevitore anche portatile? Sì, un ricevitore VHF, UHF, HF, da 0 a 1200, a 1300, un ricevitore, c'è scritto nella concessione, ricevitore, ok, per ascoltare le bande amatoriali, non ricetrasmettitore di buoni rubappu, no, sei fuori legge, ricevitore, no, noi radioamatori non ne abbiamo di queste restrizioni di norma c'è, perché siamo sistema sperimentale e quindi possiamo avere qualsiasi tipo di radio. Qualsiasi tipo di radio, mi sono informato, perché che ho in concessione, era un 48 vecchio, capito? Anche se non lo uso mai, io ho dato sempre Ghito, me l'ha fottenuta. Però ho detto no, per l'animatore è diverso. Per i CB è un'altra cosa, devono avere i baracchini a norma CE, 40 canali, 5 watt. Ma tu pensi anche io vado già giocato, ma fa un radiomatore. Ma forse mi arriva un radiomatore. Io l'ho fatto perché sono troppo appassionato del radio e avendo cose che non potevo ottenere mi sono preso la patente, così non ho problemi, solo per quello. Capito? Faccio anche l'allevatore, a tempo perso però, non c'è da tempo pieno, c'ho tutto quello che serve, anzi di più, però non mi frega niente, io l'ho fatto solo per la detenzione delle radio perché se no ce l'arresto. Fuori da me. No, io gli faccio questione, l'HF soprattutto non mi piace lui, no? L'HF è così, buh. Chi è che vuole sovramodulare Antonio? Non ce la fai, che? Miau, benissimo. Da un po', da tanto, non sta uscendo di radio, chi è? Chi è che non sta uscendo di radio? C'è qualcuno che non sta uscendo di radio, forse dalla parte tua, chi è? Ah, boh, qua non c'è nessuno, chi è a entrare? Non sento nessuno, qua sento un po' di propagazione. C'è qualcuno che vuole entrare, non lo so se è propagazione, cosa ne gioco, boh. No, non mi sta quarantena, attacco il polo, non manco attacco, no, vabbè, ma io da questa posizione, guarda, io a volte, siccome le accendo, perché c'ho il 430, il 440 e il 140, le accendo, adesso sono col 430 ad esempio, sul 430 e sul 440 adesso ho commutato l'antenna grande, c'è a volte per non commutare, no, per non stare a girare, ta ta ta, che è una coriolata perché ce l'ho davanti il commutatore della... il suo di linea, no? La T230 e accendo il 140 col dipolo dei 40 metri che lì c'è l'antenna 15, 20 e 40 e vi ascolto con quella lì e ascolto lo stesso tutti, fortissimi e allora schiacciano con il dipolo che ho io a 40 metri d'altezza provo a schiacciare se Luca mi arrivi allora con l'antenna grande mi arriva quasi 9 più 30 9 e 25 abbondante così con questa radio con picchi positivi lui poi mi arrivi 9 e 20 quindi figurati no è troppo alta la zona quindi ricevi bene chi è quello che quella signorina che mi ha detto che era tanto che non mi vede chi era tu? Mi ha detto ciao quello di è da tanto che non ti vedo che non ti sento boh chi è? Non l'ho riconosciuta aspetta aspettate un secondo non ho capito non ti ho riconosciuto mi devi perdonare ma non ti ho riconosciuto chi sei Anna? Giovanna ce lo sto dicendo Giovanna col portatile a casa sì fai mettere il commutatore Antonello così commuti quando non c'è lui parli tu ci vuole coca cola Antonello è un periodo che non è stato bene e quindi non stavo entrando l'ho sentito l'altro giorno di sfuggita ero distante dalla radio però anche lui è in questo cazzo di cose non lo puoi scattare. Va bene Giovanna, va bene. Sicuramente ti ascolto solo io perché hai parlato insieme a Antonio. Lui non la sente Giovanna? Ah, la sorella di Antonello. No, negativo. Se mi stai ascoltando, ciao Giovanna, non ti sento. Ti ha salutato, ha detto che lei già ti sente. Ui, ui, ui. Hai capito? Anto, ma ti volevo fare una domanda, poco fa stavi parlando con Luca, ma il 440 non ce l'hai più. Cioè, ti hai preso di là, quanti di una tre fai, lo sai cosa fate il 440? Fatti rindinà, prendete un'altra del radio. Io guarda, ho il 430 e il 140 che sono dei caterpillar. Già lo senti il 430 come rulla, è una bomba, ma anche il 140 esce molto molto bene. Ma il 440 lo devo accendere, anche se non lo uso lo devo accendere tutti i santi giorni, perché se non lo accendi è un casino. Guarda, io me l'ho preso da combattimento. Oh, bello, quello che c'è è bello, funzionante, ma esce una bomba, esce un bel forte, molto in ordine, bellino, la persona pulitina esterna, però frontalino, bello, qualche graffiettino ma leggero, però è molto funzionante, c'è l'MC60 attaccato, e va veramente molto bene, e l'ho preso, io l'ho pagato 200 euro ho pagato, uno se ne voleva disfare, non di Sassari, di Olbia, me l'ha fatto avere Stefano. 200 euro. Però no, non lo vendo, né a 200 né a 300. Non lo tengo perché è sempre di scorta, una radio ci vuole. 430, vabbè, questo è mitico. Non si scherza. Va bene, va bene. Avanti, Lucarie. Ma non c'è più nessuno, Gianni dov'è? Ma c'era anche, ho sentito quel cuoco ma di Franco California, Luca. No, Luca. Sono andati in pari, Luca. C'è anche Franco California, l'ho sentito a lontananza. Sì, va bene, oggi, Santiago Nuovo, Radio 5. Franco! Magari. Ma non vedi che canale è occupato? Capo di Bugnetta. Se ci vuole far vedere un'altra niente, avanti Antu. Oh, sono al telefono, scusate. Ehi, per forza mi sente, se no il socio, se no la recce a Bumbuglione, coronavirus. E come mai non lo stai usando il 440? Potevi parlare, serviva a me. Ma serviva un altro a me, io ne ho tre, però mai serviva un altro. Infatti sto usando l'MC50 con il 780. C'ho anche il 780 era che vuol dire, TS780. Però sto usando l'MC50, ma già spinge bene lo stesso. Va bene, va bene. Dimmelo, no, te lo vuoi fare in di là, che recuperi i soldi, perché hanno abbassato molto, oramai i prezzi del 440 sono scesi quanto anche 140. Più meccanico, meno problemi dal 430. Benissimo a radio, molto bello, anche esteticamente piace di più del 440. Però da meno problemi, il 440 è più completo, centro memoria, accordatore, boom boom bam, capito? Però 430 è una bella radio. Come ricetrasmettitore, il Betteri era un 440, c'è una ricezione favolosa. Vabbè, però, no, io ce l'ho, almeno 10 anni ce l'ho a 430. 440 questo che ho adesso mi pare che sia il 15esimo, il 20esimo. Lo vendo, me lo bido, perché mi rompo le balle. Questo è stato già riparato due volte, Antu. Due volte, ma a distanza di pochi anni, capito? A distanza di pochi anni, perché io poi ero sempre fuori, impegnato col lavoro, eccetera, e l'ho lasciato spento un paio di mesi, sono andato a accenderlo a tutti i punti. Allora, prima di andare in pensione, Bianconi l'avevo mandato, me l'avevo messo a posto, 180 euro. Adesso è a posto. Però lo devi accendere, lo devi usare, perché se lo lasci spento è un casino. Mentre il 430 e il 140 li puoi lasciare spenti mesi. Mandato a riparare, l'ho dato a Stefano, l'ha mandato su, con un suo amico di Urbia. Sì, a Stefano Principe. Mandato. Anche quella riparazione, quella è nuova, dentro è nuovo, fuori è maniato dalla giassidine, ma i coperchi, il frontalino l'ho pulito, è nuovo, perfetto, e così i coperchi, poi una volta che la radio è funzionante, li stacco, li porto da Roberto, faccio fare col tintometro la vernice uguale, me li faccio spruzzare. Sicuramente lo usavano per battaglia. No, quello là non è il suo colore originale. Addirittura sotto è nuovissimo, il coperchio di sopra che era tutto le viti originose, capito? Quelle cose lì si fanno dopo. L'importante è la radio funzione, perché ci va il frequenzimetro nuovo. Cioè il frequenzimetro bruciato, te lo metto e poi va fatta tutta la parte di bruciato. Tutto bello allineato, la radio nuova. Perfetto. Fatta Stefano, proprio prima di non potevamo uscire, sarà una decina di giorni fa, 15 giorni fa, si era portato a Urbia e l'ha mandato su, quello appena pronto, si verniciano i coperchi ed è nuovo, è uscinaggio 2, 3 e 4. Oh, stanno parlando, un attimo, no, beh io ce li ho, c'ho antenne, c'ho tutto, c'ho commutatore a 4, la T230, commuto, li posso usare tutte e quattro, sempre la stessa antenna. Chi vuole entrare, avanti. Tanto prima fischiate, rompe le palle e poi non entrate. Vabbè, non ti sento, non tu, stavano fischiando sopra. Va bene, Lugarie. Ma Luca è al telefono. Chi è che ci è rimasto qua? Dove è andato Gianni? Che cazzo pigi? Cosa pigi, Massimiliano? Cosa pigi? Chi è? Daniele, tu sì. Aveva biglietto in gomma che possa mai. A me, è stato che mi aveva fatto culo. Me lo sciolto, però. È un casino. No, io praticamente l'ho tolta, la sto smontando piano piano, a tempo perso. Adesso mi sembra che domani dice che c'è pioggia, non lo so. No. Sabato ha fatto tempo bello, non c'è neanche il vento, quindi può darsi che me ne vado su e la completo, dai. Così la conservo. Le sto togliendo le direttive grandi, io tu. Ho lasciato solo quella piccola, da 5 elementi, per i 6 metri, e viaggio con le filari. E cosa fai? Tanto non uso, ce la vendo a pezzi, lo vendo, ma la stava distruggendo, cazzo. 1000 euro di antenna, tenante. Me l'ho tolta, ciccio. Finisce la cazzo. Lo so, tu, lo so. Cosa pensi che viene gara? È perché siamo costretti a stare a casa, sennò io settimane e settimane intere che non entravo in radio. Capito? Assolutamente. Però se a casa cosa fai? Sempre attaccato alla televisione, al computer, allora ogni tanto fai due chiacchiere, visto che è abbastanza nutrita la frequenza, il canale, quindi facciamo due chiacchiere e passa il tempo. Ci ho spento tutto io. La mattina, dopo che rientro a portare il cane, mi siedo qua, accendo tutte le radio, tutte HF, VHF, VHF, tutte 3:30, il 40, 140, tutto. E poi è arrivato a mezza serata, quando le radio sono rimaste accese un bel po', metto tutto, ne lascio una sola accesa, boh, finito. Ma quale, il 4:40? Come mai lo senti sordo? Vabbè, tu già non sei... uno, cosa può essere? Qualche diologene, cos'è? E allora è quello, Anto. Allora sicuramente è quello, perché a me me l'ha fatto l'820H, il B-banda VHF, VHF. Un giorno sono andato a accenderlo, e dove frequentavo i ponti, appunto, dove frequentavo, mi arrivava bassi. Ha detto, eppure per trovare non ce n'è, tempo brutto non ne ho fatto. Ho acceso l'altra radio simile a quella e tutti mi arrivavano tutti a fondo scala. Ed era partito il dialogo dello stadio di ricezione. L'ho dato a uno e me l'ha veramente Massimiliano, ho mandato su un continente e me l'hanno messo a posto. Capito? Quindi ora sì, sia la stessa cosa. Stanno parlando, scelto un attimo di bianco, se qualcuno vuole entrare, avanti, appunto così, ricordo. C'è uno ogni tanto schiaccia la portante, lo fa entrare e non entra, no. Sarà, non sei proprio il coronavirus e fende male anche lui. Sì, Antonio, ma sicuramente è quello, se lo controlli bene, ti fai due cosettine, due controlli accurati, ti accorgi che è quello lì. Sicuramente, perché l'ha fatto anche a me, te l'ho detto, sul base della ICO. È diventato sordo in VHF, in uno, in VHF è diventato sordo. Ed era proprio questa cosa qua. Capito? Poi vabbè, c'erano anche altre cosettine bruciate, un po' una resistenza, però in più erano dei diodi sullo stadio del ricevitore. La parte ricevente, dai, che non ho capito come hanno fatto, vabbè, non ho pigliato mai golpe, non ho nulla, c'è radio, c'ho ancora la scatola dentro qua, la devo portare su mansarda, mia moglie già 6 volte me l'ha detto di portarla via. Va bene, Luca, hai terminato? Break, sì, è registrato il break. No, mi ha chiamato Carletto, vuole una mano col team, aspetta, con il team a installare o a sta stampante. No, bene, avanti già. Tra le telefonate da portatore stavo dicendo anch'io, tanto mi ha chiamato mia sorella adesso. Anzi, insistendo là che non doveva fare il permesso per portare giù il cane, che non ne aveva nessuno permesso, e né per fare la spesa. Ha detto che lì non bisogna fare, anche tu già sì, il papuaggio non si d'Italia. Aspetta, ha portatore proprio, ha preso delle le dritte del sindaco allucinanti, quello di fare il permesso, di uscire col permesso, e se c'è il cane non si deve allontanare nell'arco di 200 metri dall'abitato. Ma stai scherzando, lì ci sono 400 euro di multa, non più 206, il nuovo decreto è 400 euro di multa, quindi attenzione, se tu non hai un bel lampazzi. Nuova ordinanza adesso, c'è un nuovo foglio da stampare. Da 400 a 3.000, oggi voglio dire, comunque, sì, nuova ordinanza già, nel nuovo modulo ci sono, hanno aggiunto l'altro decreto che ha fatto Ghisugabo e Bugnetta la Sarì, che sta pensando a fare decreti, però ancora le imprese non hanno visto manco una lira. Se non apro il 3 aprile le imprese, succede il finimondo. E dopo come si riattivano, ci hanno buffi da tutti i ribassi da pagare, come tutti, perché hanno bloccato tutte le tasse e tutto quanto, poi si trovano tutto accumulato. E ma infatti già l'ha detto, a maggio poi bisogna pagarne due, un casino qui e là, e io ti sto dicendo succede la guerra mondiale, adesso che è il coronavirus, ma stai scherzando. Non lo so io, vabbè, avanti anche tu. Ah tu che ti aiuto. Dile a tua sorella, fai la brava, di seguire le regole, se non ci vuole buttare i soldi. L'ho detto, quello dei 200 metri già lo sa, però ha detto che per fare la spesa, no, non ce ne vuole, né per fare la spesa, tanto io esco da via Capita e vado ai granai. Vabbè, ma se ti trovano in quel tragitto ti butti. Io vado via la Malfa, via Carmoazzi, e quindi non ce l'ho il permesso. Io sto andando all'Eurosfin di via Verona, io vado via Verona, sto andando all'Eurosfin di via Calofelice, quindi dietro. Cosa cambia? Non cambia niente, sempre il permesso di via Verona. Ah, lei ha detto che già glielo danno loro, se non c'è. Lei non è anche. Deve ragionare, vabbè. Sì, ce li hanno loro in macchina, però so che il permesso glielo devi presentare. Io non capisco questo pezzo qua, capito? Se tu non ce l'hai te lo fanno fare loro. Sì, se sei possibilitato, come non hai computer, sei una persona anziana e non hai la possibilità di stamparti, non hai nessuno, ti vengono incontro. Ma certo, tua sorella non va 90 anni, no? No, che no. E allora, quando mai non c'è uno, i migliori, non c'è nessuno, c'è il computer a casa, da poter stampare un modulo. Cosa c'entra? Io lo stesso stampante la metto solo quando devo stampare roba di lavoro, se no non c'ho posto la scrivania. L'ho messa e l'ho fatto, l'ho stampato. Il nuovo modulo. Cosa c'entra? Però, dico, se ho una persona, per esempio come mia madre, che va a 86 anni, non ne hanno computer, quindi le serve il modulo, gliel'avrà stampato mio fratello a Porrottorese, oppure se l'avrà fatto dare da qualcuno, non lo so. Certo, lì non c'è nessuno a farsi dare un modulo prestampato, un balcame, non lo fa. No, è convinta che non ci vuole, fate quello, è tanto e tutti argomenti da valle. Quando è convinta di una cosa non la rimuovi, lei dire, vedi tu, se ti vuoi pigliare la busta. Quanti anni ha più grande di te? 10 anni più grande. Ehi, vabbè, c'ha 70 anni già, non è che ne ha 90. Quindi una persona a 70 anni deve avere anche la possibilità di fare queste cose. Ma se lì è convinta, come dici tu, è convinta male però, perché proprio a Porto Torres è... ci sono delle restrizioni molto molto severe, molto severe, capito? Grazie a mio cognato che abita a Sentino, allora lì l'ex bagaglino abita lì, ma esce alle vigili urbani, hanno clienti, eppure no, ma qua a Sentino stanno scendendo, nulla, niente. C'è un amico lì al supermercato di Sentino, le porta la spesa a casa, non stanno uscendo da nessuna parte, né lui né mia sorella. E come siamo? Perché te c'è con la spesa di portare in casa? Ecco, traghetto gli hanno fatto anche qua nella piazza Abramola, c'è così. C'è graffetta, tutti i giri, invece qualcuno si è soffatto, ha chiamato i carabinieri, sono arrivate due patrulle e si hanno buttate a tutti. Anche perché hanno tutti ammucchiati, la bottiglia di birra in mano, ma con cuo, ma nemico già ben sciire. No, invece a questo di fronte a me, il palazzo di fronte, che poi era il padre di un vecchio CB, Daniela, che abitava qua vicino a me, e meno male erano 206 euro, se no prendeva dai 400 ai 3000, perché lui da qua, da Carbonatti, era via Carlo Felice a Bassigen di Gurugani, capito? Dice non sapeva niente, come non sapeva niente? Se c'è scritto che devi stare nell'arco di 200 metri. La legge non ha mai ignorato, quindi di quello che vuoi. Se la legge è quella, tu ti devi informare, spetta a te informare. Ma infatti, ma poi lui, che ha fatto 35 anni nell'arma, ormai aveva fatto la contravvenzione, 206 euro, ma pagare entro 60 giorni, se no aumenta, capito? Perché era un via Carlo Felice col cane passeggiato. Infatti poi a me mi ha detto l'altro giorno, non ti ho più visto col cane, no, io non sto uscendo, io sto dentro. Oppure se esco mi dal cancelletto piccolino, faccio il giro, entro nella stradina, entro nel cancelletto che c'è nella stradina e me ne rientro dentro il giardino. Non magari a me, a parte che Filippo non si può portare che tira come un cane, come metto mai, no? Metto un cane, come metto mai, no? Quindi non devo stare a... E poi c'è l'ordinanza, non si può andare. E ho detto non sabbia nulla, e vabbè, paga di 200 euro. Se ti trovano adesso sono 400. No, io lo posso cortile, tranquillo, ci stai quanto ti pare, perché nessuno ti può dire nulla che sia più che tanto qua. E ho tenuto una mezz'oretta e poi sono andato. Sì, ma io quando lo porto alle 7:30, alle 8, è illuminato il giorno, ma sai quanti ce n'è? Ieri eravamo in 6, cagnolini piccoli, ce n'è uno grande, però Filippo lo conosce da piccolino, quindi non si attaccano. Li molla, ogni tanto vanno, però tengo a guinzaglia Filippo, se no mi ammazza la caseduna di cani, perché sono talmente piccoli, vanno a rompere le scatole, la caseduna di chiccia. Giochi barboncini, c'è un barboncino, c'è uno di quei Yorkshire, c'è un pechinese, un bassotto, bellissimo, proprio curioso. E poi c'è uno di quelli grandi, non ricordo la razza, me l'ho detto Ilaria, però è tipo la caccia, non mi ricordo che razza. Ah sì, un cocker, un setter irlandese, che si chiama Ettore, ma ha una rottura di balle quel cane. Però gioca con Filippo, sono tutti e due, un maschio e una femmina, fossate maschio non ce l'ha visitato, mentre gli altri, e quindi lo tengo a guinzaglia, la sera scendiamo e fare un giretto così, capito? Però fuori nella strada niente, nulla, infatti ho visto, non riesco a capire che i marciapiedi sono molto più puliti. E tutto sta rinascendo di nuovo, tutto i cinghiali per te e tu puoi visitare. Adesso vedono che c'è molto silenzio, non ci sono macchine e cose, sono tranquilli e andano a passeggiare qui a Roma, in testa d'Italia. Ma sai cosa si devono mangiare? Quelle arance che ci sono, che mi hanno piantato qui a Roma, ce ne presenti, quelle che non sono state in estate, dai. Quando cadono in terra si mangiano quelle. Beh, i cinghiali mangiano tutto così. Antonio Resecca, aiuto così. Mi pare che c'è un break, fa entrare già. Avanti break, Kappa collega, ben sentito anche a te. La stazione è doppio rudo della città di Sassari, nord Sardegna, che ti supercordializza. Avanti col QRZ, è negativo, ti copio molto basso, ti copio molto basso, la propagazione non è favorevole oggi. Cosa ha detto, come si chiama? Non riesco a copiarlo, cioè sento che parla ma non si capisce cosa dice perché mi sono sopra nulla. Sì, non pensare anche qua. Com'è che ti chiami? Chi sei? Dove sei? Sei per sei? Ti impattato e poi avevo impattato in bocca. È attaccato sicuramente. Stacca a lineare e arrivi troppo saturo qua. Sì, al 100% ha migliorato. Avanti, qual è il tuo QRZ? Buonasera, operatore Gianni doppio rum, avanti, Barbanera. Ma Antonio Barbanera? No, di Clottone. Attento, Barbanera, Barbanera, come mi ascolti lì a Clottone? Tu arrivi 1 e 1, Radio 1, Santiago 1, livello QRM. Adesso la radio ha migliorato un po', però sempre Santiago è basso. Mi ha casino, tutti e tre di abbasso. Non si capisce l'accidente, sono uno sopra l'altro, tutti ammucchiati, tutti... vabbè. Ciao Antonio Barbanera, comunque Claudio Sparviero da Sassari, buonasera, se mi ascolti io ti ascolto molto, ma molto male. Sei in mezzo al QRM, ogni tanto sale il segnale, però ti coprono i tuoi colleghi in propagazione, gappa. Gianluca hai detto che ti chiami, così è. Molto bene Gianluca. Segnale per te in questo passaggio 3, radio 3, ma sei con QSMI talmente sali e scendi che non ci capiscono accidenti. Ok, ti passo Gianni Roperum, vai già. E io Gianlu ti saluto, dai, non riesco a sentirti bene. Ti saluto, ti auguro una buona serata e alle prossime magari in migliori condizioni, dai. C'è la Sicilia, c'è uno spagnolo, giotto, tutto a conto giù, se fa bene. Allora non mi interessa. Capito? Già, è così, purtroppo queste riflessioni, questi decreti, queste normative che hanno fatto i sindaci, è un casino, vabbè. Spero di mettermi al più presto possibile perché si stanno perdendo tanti di quei quattrini, ti ricordi quella cosa che ti avevo letto, eccetera, eccetera, che non sa nessuno, insomma. Tutto bloccato, tutto fermo, meno male, meno male. Non prendi inizi i lavori, no? Ui, ui, ui. Cappa, cappa. Casino e... adesso è tutto fermo. Quando ci sarà la ripresa, se ci sarà, sarà... si comincerà in salita già. Perché ci sarà tutta la roba accumulata da pagare, il casino. Bastava che stavamo male, nel senso che c'era poco lavoro, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però pensiamo che è una cosa che passa. Mia sorella ha detto, l'interessante è che siamo vivi, dobbiamo pregare che siamo vivi, dopo tutto il resto ci si pensa. Ehi, Andrò, vieni avanti. Santiago 9, Radio 5. Santiago 9, Radio 5, a meno risetto. 9, 5, 6, quasi 9 più 10. Anche da me, non ci segniamo. Bella tu, bella, caspita, incrementa tantissimo. Arrivi 9 a me, 9 a Gianni, 9 e 5 a me con picchi positivi, 9 e 5 a Gianni con picchi positivi, ottimo. Ce l'hai barattino, usalo, usalo, questo va benissimo, caspita. Ottima modulazione anche, vero già? Via. Cosa ci hai messo? Lineareto dentro. Però questo segnale qua è come se avessi 100 watt sotto, perché ti dà lo stesso... lo stesso segnale che dà un lineare da 100 watt, cioè da 9 passi quasi a 9,10, non sono 9,10 ma è quasi, più o meno 80 watt, dai, roba così, ti dà questo segnale qua. E i punti S aumentano notevolmente. Ah, l'hai dipettoso, dai. Ho capito. Quello lì non era l'apparecchio che aveva Falcone. Ah, quindi non ti trovavi, dai. Capito. E sono invertiti, dai, come sono visti, dai. Anche per dire Galassi, sì, e l'altro però dà anche qualcosa in più, già. Veramente già, molti, io ce l'avevo, l'ultimo V2 ma anche l'ultimo V3, questa roba di colpi prendeva, ne dava, mai poco ne bigliava. Il coso, l'Intec FM500S, bigliava a voi, infatti lo usavo in macchina, me l'avevano rubato dalla 850, beh, l'Intec FM500S è la fotocopia dell'Aran 48. Grande baracchino in macchina, secondo me è il numero uno per la macchina, ma a casa va di chi? Ma forzavi la manopola diventavano 40. Lo so, no, il mio è 34 canali, originale. Originale 34 canali. Funzionava anche bene. Però minchia a casa si buio di lì. Io infatti negli anni che ho iniziato, che sono arrivato a Sassi, sono arrivato a Sassari nell'83. Nell'85 mi sono sposato, ero residente via Montegrappa, a casa dei miei suoceri perché lavoravo a Sassari, e quindi ero residente lì. Nell'85 poi ci hanno consegnato la casa qua, e quando ho montato l'antenna, il primo baracchino che ho messo era appunto l'FM500S, ma roba di golpe, mi diavo, ha detto togliene tutto, conserva tutto, butta via tutto. Sono andato a Mario Montari e ho comprato il 430, ce l'avevo io, Marco 131, 9 volte ce l'aveva già, poi non mi ricordo che ce l'aveva a Sassari, il 430, TS430. Con quello ho iniziato la vita da TVDiano, non ho più cambiato. Per la 27 ho iniziato con quello, poi tutti gli altri, eccetera, eccetera. E sempre sono così. Baracchini, io 27 non ne uso perché non mi piace usarli. L'unico baracchino che ho che non prende colpi è quello di Pinangelo già. Quello sì, ma gli altri... Figurati che sentivo quelli che parlavano alla veloce, quella era 48. L'airbag c'è, mi pare, vero? Eia, l'airbag, sì. Bello, è grande, eh. È grande quanto il Magnum, eh. Aveva il microfono e me la lancia. Praticamente gli ho dato uno del Midland perché lui c'aveva una LAN 48 e l'ha avuto il microfono del Midland. Io gli ho rimasto quello dell'airbag. Guarda, io quando c'avevo l'FM500S gli avevo messo uno di quei microfoni della Intec con la batteria da 1,5, tutti dicevano che era una bomba, che spara bombe. Io l'avevo messo il Tane più 3, Tane più 2 e Tane più 3, perché le MB più 4 e MB più 5 ancora non erano usciti, e quindi le avevo abbinato il Tane più 2 e il Tane più 3, usciva molto bene, ma... se parlavamo tutti nello stesso canale, allora però in quel periodo eravamo tutti uno da una parte e uno dall'altra, ma prendevo tanti di quei colpi. Boom. Quando ho preso il 430 rinato, non sentivo niente, tranquillo, mi potevo spostare dove volevo. Non attianto. Ocla. Eia. Ma non c'è nessun altro venuto? No, non credo, c'era Luca ed era il telefono. Poi non ho sentito altro, Natalino, nessuno. Oggi è entrato Gianni, l'autista, il camionista, e sta rispolverando tutto quanto, adesso si sta piazzando tutto, tutta la stazione, e si deve prendere solo l'antenna. Ha detto che c'è una Grand Prix, ma se la buona a fare la Grand Prix, pigliati una Game Master direttamente, senza radiali, leggera. Ah, allora ve la video, se quella lì è leggera, io la voglio leggera l'antenna. Ha detto che forse se la ordino. Ehi, Gianni Dischetto, portatore. Paga. Ehi, c'è il baracchino mio nel camion. C'è l'Alan 48 che avevo preso il primo, non il secondo, c'ero io, il primo che avevo preso sempre da Gigi, e poi l'avevo dato a Giampaolo per mettersi nell'app, nella moto, e poi l'ha dato a Gianni. Gianni già c'è una bella roba, e poi c'è un B300, c'è il baracchino, quello modificato dalla 48, poi mi pare c'è anche un altro baracchino, e vabbè, piano piano, sempre di nuovo la gente fa piacere, tanto, cosa fai? Siamo quattro gatti, noi siamo sempre radio, non c'è nessuno dalle altre parti. Noi parliamo di mattina, di sera, cazzo, tutti le targo sono andati. Chi vuole entrare avanti? Oh, qua, scusa un attimo. Ehi. Sto fischiando? Come? Sto fischiando con questo microfono? No. Va bene? Sì che va bene. Buh, che strano, l'ho attaccato al 44, poco fa stava fischiando, adesso l'ho messo sull'altro e non fischia. Tocca in gente sul... Abbassa appena, un pelino. Sì, sì, Sicilia che ti ascoltiamo, avanti. Cambio radio, dai. Come va qua in Sardegna? Ma noi siamo isolati, quindi, come voi. Per venire qua a infettarci ci vuole l'aereo e la nave, ma non penso che arrivi più nessuno, eh. Abbiamo chiuso le frontiere. Sì, sì, la conosco, la sappio, eh. Portate ossigeno agli ospedali, bomboloni di ossigeno, non solo agli ospedali, anche ai pazienti. Consegne a domicilio, così confermi? Sì, sì, positivo, però io mi occupo della distribuzione, capito? Non vai cicca, arriva. Anche a me. Sì, sì, sì, QSL, QSL. Ti passo un amico qua di Sassari per i saluti, vai già. Oberbacco, ciao, Brescia, proprio del cuore. Ciao, dai, ben sentito anche a te. La stazione doppio rudo è QTH di Sassari, ti supercordializza, avanti, così mi darai anche un segnalito se lo stai camminando con la barra pesante, dai. Ma io non sono in barra pesante, sono in fase di arrivo. Durazione 5 Gioia Tauro, Paolo. Aspetta, Gioia Tauro, un attimo. Avanti. Prima che mi arriva la moto più la notte, più diciamo, vai, la radio è 5. Il segnale oscillante qua. A te il segnale non c'è, però la radio. Non possibile, qua non c'è bisogno di avanti. Hai sentito già? Sì, aia, KK, grazie per il segnale, dai. Però c'è un altro amico che sta parlando sotto. C'è un collega di Giulia Tauro qua che sta parlando, vabbè, però lui arriva più forte. Va bene, va bene. Hai terminato di consegnare il QRL, è terminato? Non intendo più. Attenzione Gioia Tauro! Guarda, facciamo un francese. Attento Claudio, se ascolti qui la Gorizia. Sì. Io ascolto a tutti, però per Gioia Tauro, per Agrigento, per Catania, per Palermo, per mezza Sicilia che sta parlando. Avanti fra. Ce la facciamo. Ciao ragazzi, tutto bene? Ehi, tutto bene, in quarantena siamo. Quando gli anni e poi ciao Gianni. Ciao fra. L'esaurimento mi sta avvenendo, chiuso in casa. Oggi c'è un casino del genere dappertutto, tutti i casi sono pieni, ci sono 3-4 ruote a Sassari. E dopo queste 4 ruote. Poco fa ho fatto la statuata, c'era gente sul 10, sul 17, sul 23 e sul 24 c'era anche Gianni che stava facendo di ex. Beh, non sento nessuno, non è sul 17, non è sul 23. Non sento nessuno, a chi non me ne ha fatti nulla, io su 10 sono, su 10 parlo e ascolto, cambio. Sì, faccio un collegamento. Sì, sì, no, beh, se oggi c'è gente un po' dappertutto, dai. Roberto, Roberto, c'è un po' dappertutto. Vabbè, Roberto. Vai su 31. Oh, adesso sei su 31, io non lo sento Roberto, anche se ce l'ho a fianco. Ognuno può andare dove vuole, sono tutti alla caccia di propagazione. Basta di maninoghi, vai già. Se riesco a capire qualche cosa, vabbè che noi già siamo fuori, già ci capiamo uno con l'altro. Sì, è agganciato già. Ah. È un po' compressa la modulazione. Belli mio. Guarda adesso. È sempre un po' compressa. Belli mio. Rabbi? È un pochino compresso di già, ma quando c'è preparazione già passa lo stesso. No, vabbè, io vola, vola, 20 watt, ma vabbè. Ma allora, fra, che si dice? Che si dice? Io sono ancora dei pochi che stanno lavorando, dei pochi, oddio, già ce n'è gente che sta lavorando, e quindi speriamo bene. Ehi, vabbè, chi deve lavorare lavori, è giusto che ci lavori, chi deve rimanere a casa rimane a casa, vuol dire che ha già fatto, va già, già. Ma tu ora sei cuoco, con l'originale? Cazzo, questi sono siciliani. Ehi, per la Sicilia, beh. Non è importante, ognuno fa questo a casa sua, non voglio stare a voci, mi ascolti o non mi ascolti, tanto. Mi ascoltano tutti, quindi non c'è problema. Come io ascolto loro, loro già ascoltano a me. Sì, io credo. Volevo dire, poi ci posso fare un'altra cosa, ma ormai sceso. Adesso invece tutta italiana, anche nel centro Italia, a Roma. Sì, sì, c'è tutta un po' l'Italia, ma ce l'ho scritto molto lungo comunque. Va bene, cambiati, avanti. E come ti hanno riconosciuto che è duro un paio di balle? Raga, poco fa, poco fa, so che arrivi 12 minuti, vai a casa, così. Vai, capo Bonier, Castel B piace neanche il tuo, così Remi. Guarda, capo, il mio 40 anni in radio, altri 40 lui. Se poi avanti, avanti, capo Bonier, avanti, cazzo non era ripreso. Sono radio 10 minuti, ma ero acceso così, ero un po' nel canale in alto, là. Sogna anche il signor Cedir Remi, abbassate. Così dico, cavarro, che la voce è bella, cagata. Ti do. Oh, Massimiliano, regalati un microfono come Cristiano e Luca con la radio, che stiamo divertendo un po', Attenzione, Massimiliano, buongiorno, se tu ascolti Luca qua, gatta. Cambio. Oh, Massimiliano. Aspetta che saluto a Luca Riello, ciao Luca Riello, non so se mi tiri fuori, in mezzo a questo casino, Ciao Luca! Le antenne flettono, frate, la cosa è bella, cappa! Dimmi Claudia! Ho detto a Luca, non puoi fare niente per migliorare questa radio, che quanto è fea che... Luca, quando finisce questo coronavirus deve venire qua e gliela vuoi regolare. Però deve cambiare anche il microfono, cava! Sì, appena... Luca c'è Franco, che... Sì, appena finisce tutto, speriamo. Ce la beviamo anche, non solo. Io mi posso venire quanto il capo, pure a buttarmi in bocca. Avanti, Franco. Capo, facciamo, Silvia. Sì, troppo... troppi toni alti, c'è questa modulazione. Non sono Massimiliano, sono Luca. No, ma è entrato anche Massimiliano. Ma ti ho fatto entrare io. Avanti, Massimiliano. Ciao, fra. Cosa c'ho troppi alti? No, Luca. No, lo toccando da due, Massimiliano, una bomba. A Luca stiamo dicendo. Luca, c'ha la modulazione non è bella, la tua è corposa. Bella, corposa, con tonalità medio-bassa. Lui c'ha solo acuti e boom. Quindi secondo me è il microfono, Massimiliano. Aspetta, allora Massimiliano, questo qua è, aspetta. Allora, questo qua è quello che uso sempre, aspetta un attimo, che cambio microfono, aspetta. Te l'ho detto anche dall'altro giorno che quel microfono c'ha troppi acuti. C'ha troppi acuti e la voce è tutta negativa, dai. E questo qua è un altro, la cosa è bella e la cosa è bella, gatto. Attenzione Massimiliano, gatto. Cazzo, male in peggio ci è andato. Si dice migliori, a maledetto. Vai tu, fatti portare da me e da Massimiliano. Chi sei peggio dell'altra? Sì, sì. Ma chi ha detto? Mi dice che è più chiara. Non ero già più chiara. Non hai microfono per quella radio. Non hai microfono. Cazzo, se tu sentivi quella radio, col microfono che a me mi ha dato quella radio era qua. Prima di comprarla tu era qua e io l'ho usata, era una bomba. E ma Massimiliano, non mi ricordo se mi ha volato il microfono suo, quello che stava usando lui, perché lui già aveva tutto staccato, non mi ricordo che microfono mi avevi dato, Massimiliano. Ti ha volato il microfono Cobra. Aspetta, togliamo sta cosa. Il microfono Cobra ti ha volato, che c'ha la radio cosa adesso, Daniele? Cazzo, una bomba, una bomba, una bomba. I microfoni non vanno bene l'uno e uno nell'altro, devi cercare adesso, affidati a Massimiliano, quella radio la conosce bene, appena termina questo casino, provate qualche microfono, perché quella radio è veramente eccezionale, io l'ho provata ma è stupenda, c'è una modulazione favolosa. Vabbè, adesso per il momento tengo questo qua, dai. Vediamo tutto. Vabbè, ma non ha, lui mi ha dato un intec, quel tipo, ma carità, ma esce malissimo, tutto cupo. Cioè, ma io dico, vedo una radio, che, cioè, mi stai prendendo una radio, quindi me l'avevo vedo comando, con un microfono, cioè, tutta. Io sono stato preso per il culo da questo qua, da questo vero barone rosso, che si deve mangiare i cani. Lì, allora, lì devi, ci devi mettere, in poche parole, devi mettere un Midland. Mi sembra che costa intorno a una quindicina di euro, lì da coso, da Tonino, da GBC. Aspetta che controllo su internet, se c'è mi faccio la ricarica, ve lo ordino, aspetta. Ah, cos'è la ricarica, vai da Tonino, 15 euro, gas e trubili, cos'è la ricarica? È chiuso. Ah, chiuso, allora ordinalo. Aspetta. È troppo alto oro, adesso me lo va. Tutto chiuso, Massimiliano, mi serve una cosolante, una fascetta per completare su e non posso obbligare più nulla, non so dove andare. Stamattina sono uscito, cinesi, tutto serrato, piazza dei segni, l'altro che c'è, tutto chiuso, no? Un casino, cazzo, mi sono rotto le balle. Massimiliano, allora questo qua è il microfono Misand MDL 4190. Ehi, a 4190 ci vuole. È tutto vero, è uguale a quello CT, l'unica cosa che c'è la scritta Midland, capito? Però quello CT rimane leggermente, il guscio è leggermente più allungato, là. Però vanno bene lo stesso. Io adesso su questa radio sto usando un Midland, bene va? Sì, sì, costa 12,90 più 5,90, costa 18, 20 euro mi viene, là. E pigliardino, là, 20 euro si possono spendere. Ma ne vanno andando il telefono usi sull'altra radio, comunque c'è un microfono si deve avanti fra, se non so se mi ascolti. Sì, capa, ti ascolto, no, come prima, se non entra nessuno di quelli dei siciliani ti ascolto bene ugualmente. Volevo dire, ci vuole un microfono normale, vero, non amplificato su queste radio? Guarda, se mi ascolti meglio così. Te lo grido. Ha già stato la bevi, Massimi? Che cosa? L'ampli. No, questo è l'altro, l'altro è a posto, lo sai, sì. Me l'avevi detto? Però non dà la potenza che deve dare. No, ne dà di più, allora. Cazzo, tu te li hai messi nuovi? No, due erano a posto, uno era in perdita e gliel'ho mandato due io. Intorno, ci appicchi intorno ai 7,50. Beh, non l'hai attaccato questo? No, no, negativo, qua. C'era lui perché non riesco a fare la ricarica e quindi non me lo manda, capito? I tabacchini, il lotto, tutte queste cose qua sono chiusi. No, a Sassari ho pagato la luce io. Subito stamattina c'è il tris aperto, il tabacchino che c'è l'otto, c'è Zia Maria qua in piazza Aldo Moro, la piazzetta che c'è a Carbonazzi, poi c'è Fara lì alla via che via è. No, l'otto è aperto, per pagare le bollette, per fare le ricariche è aperto, non puoi giocare a gratta e vinci. Anche qui per la Sicilia il tabacchino è aperto. Spacchi tutto così. Comunque, è a posto, tutto. Di me sì, lo lasciamo così, no? Mi dai le coordinate, Massimiliano, ti do una mano io a fargli la UGT o vai a mandare. Che problema c'è? Io ho più possibilità qua di spostarmi. Se hai le coordinate io già te la do, e poi pagami il muro, già le molti dopo ce li ho qua. Sull'anime mi pare. C'è un problema, vicino. Giusto per fartelo mandare, non così lo usi. Però sai qual è il problema? Stanno spedendo. Fammi vedere. Quello devo vedere un po', se lui può spedire. allora tu informati se lui può svenire, capito? Se può svenire non c'è problema, Massimiliano, poi non ci vediamo, ma dai, non se lo dice un problema contigo, ci mancherebbe altro, ma almeno te lo manda, capito? Dove faccio io la ricarica, mi mandi le coordinate dove fare la ricarica, tutto il barabam e te la faccio. Apparato con lo stupido in più, guarda, si può fare, guarda, si mettono d'accordo. E siamo fra, meglio mi ascolti così. Sono impressionante l'aumento che c'è in dB. Cosa? Che è un aumento di segnale pazzesco. Ok, a dopo. Ma così si è agganciato, ma sì. Sì, ma sono al minimo però. Minimo? Secondo. Sì, ma quasi 9.30, sì. Guarda, guarda. E ma ci ho messo a fare l'ingresso. Ma questa è una radio, ma ci vediamo. Ma non devi fare un K e K del Roger, la tuita è... questa schiaffeggia forte, cazzo, minchia quanto compare. Positivo, poi facciamo così, la cosa è bella, capito, carino? Niente, ciupa, fra, guardati lo Smith. Sì, no, sale di brutto, già c'è un bel segnale, poi c'è dei piccoli picchi di modulazione pazzeschi. No, ma la radio, a me piace troppo la radio Massimiliano. La radio Massimiliano non c'entra nessuno, tra lui e Gigi, che se ne dicano, che ne provino, che ne facciano, che ne attacchino. Guarda, io ho una bellissima modulazione, spingo molto anche con l'ecco, però non riesco mai ad arrivare alla modulazione, diciamo, Massimiliano. È favolosa, è bella, bella, bella, bella, proprio da sentire, è fortissima. Doppio root. Mi sei al telefono. Io sono sicuro, che se... come si chiama? Ma... che se Luca me l'ha qua, quella radio gira come questa, sono sicuro, è la stessa mano. No, non è la stessa mano. Chi sa, è napoletana, chi te saggia. Non so, Massimiliano, ma le abbiamo fatte le prove quella radio, lo sai che era qua? L'ho provata, ci siamo divertiti sul 45, cazzo, rullava bene, però il microfono era il tuo. Fra, se hai 2 minuti di pazienza ti faccio ascoltare un'altra radio che è uguale a quella che c'ha Luca, fatta dalla stessa mano. Tu mi dici che differenza c'è da una all'altra, sono uguali, eh? Ma secondo me è proprio la... o è la timbrica, perché anche Claudio c'ha una voce potente, quindi magari su quell'apparato va meglio. C'è un gioco di microfono che Massimiliano mi ha insegnato, capito? Quando parli con quelle radio devi avere una caratteristica un po' corposa, devi tendere a tenere il microfono un po' in una situazione, capito? Luca secondo me se lo attacca troppo alla bocca, non lo so come lo usa, ma è sicuramente roba microfonica, perché quella radio che ha Luca è veramente una signora radio, bellissima, bella, nuova e poi funziona molto molto bene, perché l'ho usata io. Quindi è quella che stai usando tu qualche mese fa, dai? Qualche mese fa, l'anno scorso, ho usato qualche volta la radio con lei, era quella lì, perché ci avevo tutte le radio Massimiliano, ne avevo una decina. Forse anche di più, tutti dentro una scatola perché lui stava facendo lavori a casa, capito? Quindi ha smantellato tutto per non tenere tutto in mezzo alla polvere, ha messo tutto dentro una scatola e l'ha data a me. E io una a una ogni tanto ne accendevo una, capito? Ne accendevo una e mi è capitata quella e ti dico che era una bomba, ma usciva minchia che... Franco, mi ascolti con questa? Sì, ti ascolto, adesso sei un po' bassino, però ti ascolto. Vedo un po' se un po' bassino, se ha migliorato così, dai. Sì, questa sì, oltre il 9 come picchi. E la voce comunque è sempre più corposa di quella di Luca, dai. Positivo, dai, questa qua è uguale a quella di Luca, dai, tutto a posto, tutto a cogliere. Ma ne manca paragone. Qui c'è un po' più di medi, Luca è ancora più acuta. Vabbè, questo non è neanche il microfono suo. Però si sente che va molto meglio. Ma secondo me oltre al microfono quella di Luca vuole anche regolata Massimiliano. L'altra che vai, cos'era il manual? Mi sembra che sono modulati. Ma i midi si possono, i toni si possono regolare? Ma di questa? No, quella di Luca. No, negativo, però già si possono fare qualche lavoretto. Quindi bisogna agire sul microfono, dai. Attenzione, binario 12, che scende di strada. Che l'ecco di rosso? Mi ha Gianni col 48, vai già. Come vai, 7 sul 12, cambio. siamo, noi siamo sempre sul 10, non sul 12. Comunque è chiara questa di Gianni, è chiarissima, eh? Anche quella di Gianni è bella, funziona bene. Già, siamo sul canale 10, non sul 12. Ma sul 12 ti sentivo come se fossi sul 10, di splat. Cazzo, di cosa stavamo parlando poco fa? Ci stai già detto che io sentivo quelli di latte roccia e quella era 48. E allora, nello staccato io stavo usando quella di Massimiliano. Chiara, mi, chiara, io ho parlato sul 12 e mi sentivate, boh, aspetta. Attenzione Claudio, se ascolti il doppio run, cambio. Dove sei? Sul canale 12 ti segna? Via. Via, boh. Già, chi ci vuoi io, è Radio 2, prendi anche il radio. Sul 10 siamo, non sul 12. Sul 12 ho girato, non ci sei, sì, sul 10. Ora sono sul 10. Ma tutta. Anche poco fa eri sul 10, sono passato sul 12, non ti sento io, quindi sei sempre sul 10. Non c'è la monopolina mollata, no? E ti segna 12. La monopola spanata, c'hai? Sono passato sul 12, non ti sento, io sono a sintonia continua, Sei sempre sul 10 già, non sul 12. Va bene, dai, io mi allontano 10 minuti a portare il cane a fare la pipì, ma salgo e scendo, Cioè, scendo e salgo, dai. Riprendi i massimi. Venga, dai, dai, io ho ricambiato, questo è il mio gioiellino, comunque, là. Anche io vi lascio un secondino che io, ma quello lui sono arrivato ancora. Sono arrivato, ho sentito un po' di propaganda, mi ha fatto un po' di passaggi. E mo vado a farmi la docetta, là. Ci sentiamo, ciao Franco, Gianni, Luca, Claudio e tutti quelli che ci sono in ascolto, là. Ciao ciao. Avanti Luca. Ora questo anche tu gira bene. Ma Massimi, questo è il quello che stai usando adesso è il magno. Sì, è il magno. Santo buon padre. No, è bella anche quella di Gianni. Lasciala stare così, già che è regolata bene. Non è tutto graffiato il microfono, ho messo la Cactus dal Midland ed è nuovo il microfono e gira bene. Bella anche questa, bella modulazione, no Fra? A me piace molto, No, ma Gianni la macchina pompa con me, sono battia dai granai, 9.10 là dentro il piazzale, poi era sempre 9.20 fisso. No, ma anche in città, il problema di questa radio, ce l'ho anch'io, non si può usare, vedi Gianni, mi sentiva sul canale 12, non si può usare, è un casino, non fa, però come modulazione è strepitosa già, molto bella. Dai, vado a portare il cagnetto e scendo e salgo, ok? Riprendi già. Claro, non si può usare il 48 in città, anche se intendi tutti i canali. Se tu, io mi sposto di un canale qua non sento più nessuno. Il 48 è un casino. E quello sto dicendo Massimi, ti ricordi il 48 mio? Assolutamente, non si può usare. Cosa attacchi? No, proprio un casino, no, non fa. Sentivo quelli della Peroce, figurati. Non fa. Però come radio in trasmissione è bellissima. Quella di Gianni è molto bella, c'è molto bene Gianni. Poi a quella di Gianni è fatta la stessa mano di questa, quindi già lo si sa. Andrà bene, dai, ragazzi, di nuovo vi saluto. Ciao, ciao. Ciao, Massimi, a dopo se coincide, vai, Fra. Alle prossime, cambi. Bella corposa, già, bella, mi piace. Vai, Fra, che porto il cane, ci sentiamo dopo. Ehi, capa, dai, a dopo. Ok, Gianni, la tua radio è adesso quella che stai usando, già? Alla 48, dai. Prende colpi, cioè se c'è altra gente nei canali vicini, prende un po' di colpi? Quello sì, quella prerogativa c'è, e prende il culo. Mi ricordo quando qualche anno fa ho avuto quelli, tipo i multimode, mi sembra, i Lafayette, quelli lì è lo stesso, erano una porcheria di ricezione, prendevano colpi da tutte le parti. Beh, che adesso chiudo l'ecco, là. Chiudo un pochettino, opla. Aspetta, 1, 2, 3, prova, ora, 1, 2, 3, prova, ok, così ne do poco, così invece di più, cambio, ora, io l'ho acceso perché ce l'avevano loro, adesso si sono tutti andati, adesso rimetto l'apparecchio normale, dai, questo ce l'ho solo, ce l'avevo in macchina, questo poi non l'ho più ripiantato quando ho preso la macchina nuova, se no... questo qua girava forte. Te l'ha detto Claudio al produttore come è arrivato? E quindi avevi questo apparato? Io avevo messo questo nella macchina con l'antenna turbo 2001 al centro cappotto. L'arresto proprio, i disturbi che mandavi. No, su strada non li mandi. Ma quando entri in città ne spara. Aspetta che c'è una chiamata, avanti l'attenzione. Hai sentito? Attimo cellulare. Mi sembra che è Nicola da Vibo Valencia. Ci sono troppe sovrammodulazioni. Nicola. Nicola, non ti ascolto. Vedo casino. Marco lì. Ah, ne senti preparazione? Poi siete in alto, se sentite più di me. Ciao, scusate l'introduzione. Sto girando il canale continuamente, gente in FM, gente in AM, gente in banda laterale. Oggi giornata buona, mi. Se poco fa siamo da Sassari, c'erano tre o quattro, non dico ruote perché, comunque tre o quattro canali occupati, c'era sul 10, sul 17, sul 20, sul 23 e anche sul 24. Buonasera. Via Gianni. Ciao Lupo Fè. Eia, è che non avevo voglia di attaccare oggi, non avevo voglia proprio. Vai Gianni. Ciao Marco, ciao Franco, buonasera. Marco, stupenda radio, cazzo, la radio più bella del 10, cazzo. Confermo e sottoscrivo. Sì, ho fatto un paio di ex con la Sicilia, adesso non mi ricordo se era sul 21 o sul 17, cioè sia sul 21 che sul 17, o 20 o 17, ma non mi lamento, comunque bene, anche con la Puglia. Guarda, già c'è una burrotta allucinante. Cioè, mi hai tradito, la voce più bella della frequenza la mia, adesso è quella di Marco. Claudio sta perdendo lo scettro. No, ma il baracchino che va bene, non è la mia voce. Ciao Claudio. Ciao a tutti, adesso portando il cane. No, a Gianni, il profeta, sto dicendo. Va bene. Ciao Claudio, buonasera. No, vabbè, chiaramente Marco sta usando il microfono originale. Ecco, ha copiato la radio, non ce n'è per nessuno. Sì, beh, normale. No, io uso sempre questa professionale, senza ecco, senza brutto. Ciao Antonio Riserva. Dai, vado a portare il cane a dopo, riprendere un brofè. Ehi, non so che ci sia in ruota, vabbè. Ho sentito Franco. Marco, saluto, rinnovo il saluto a Claudio. Forse Antonio, avanti Antonio. E Luca. Ok. Ciao Antonio, non sapevo che ci fosse anche tu. Sono rientrato, dai. Cazzo, no, il modulo l'ho preso ieri, non puoi tu cambiare il nuovo modulo, cioè hanno rotto le balle. Mi ha mandato tuo collega lì, Franco. Il modulo? Allora su WhatsApp, remichisso. Il nuovo ti ha mandato quello di oggi? Allora. Ho capito. Volevo chiedere una cosa. Antonio, riserva se non sbaglio, da dove modula? Su, sopra di me, sopra, in alto, molto alto. E perché non lo sento, cavolo? Perché c'è un'antenna, c'ha praticamente il bastone di Rocky Siffredi. E allora dovrebbe arrivare bene qua. Ci hai guidato. Beh, da tu. No, la fa quello si fa sentire, maledetto. Sembra così, ma già, anche da Maria arriva bene. Qua a casa arriva un bel forte lo stesso. E ma lui non ti sente, Antu. Sì, Santiago 8. Ma hai ripreso a fumare, Antu? Pensavo, no, io no. Quindi mai ne vengo. La sua sigaretta mi manca, ma dai. Pucci. Sai quando la fumo, se la fumo? Quando sto per morire, so che sto morendo, ma la fumo. No, adesso quando le zanne io non fumo, Antu. No, a me no, proprio. Anzi, mi dà fastidio. No, che tu hai smesso prima, dopo di me. Quando io avevo smesso, tu fumavi ancora tu. Un cazzo, cioè uno non smette. Io sono con 12 anni che ho avuto con sigarette, 12 anni. Tondi, dal 2008 adesso, 12 anni sono. Perciò tu hai smesso dopo di me. Qualche anno dopo di me. Avanti Gianni. Ciao Luca, buonasera. Vabbè, io purtroppo ci sono ancora legato. Cosa vuoi ti dica? Non è così facile, no? E quindi ancora me la sto grattando. Andavi, dai, avanti Marco. Ciao Marco. Ciao Lu. Ehi, con questo modulo hanno rotto le balle. Bah, siamo perdere. Centesimi, adesso non è per i centesimi, centesimi qua, di centesimi là, si va a zedere là. Cazzo di altro. Prima questa va a zedere centesimi fuori, va a zedere centesimi, a zedere centesimi se non è rilassato. Ma tanto mi compro la stampante, non me ne frega niente, ma non è perché, io così fosse che mi balli, mi piace, me la faccio a casa le cose, no, devo uscire, a volte, ma la compro e boh, mi compro un blocchetto di fogli, tanto costa una cazzata, 3 euro, 3,50, non me lo faccio io direttamente. Lo stesso, io me lo stampo a casa, solo che lo stampi, 2 giorni dopo esce il nuovo, cioè manco l'ho compilato e esce il nuovo. Pazienza. Oh, ma quindi sto stampando anche dall'altra parte, prima li stampo da una parte e poi se cambio li stampo dall'altra. Ah, tu hai stampato anche l'altro che non deve uscire ancora? Sì, me li hanno dati l'azienda stamattina. Ma voi state lavorando sempre, sì? Sì, sì, noi sì. Io ho fatto tutti quei retti, da, a io forte. Che birra! Gianni, sono Brecco. Quando gli mandi lo sempre da Gianni Roffetta, avanti Brecco. Buonasera, Natalino Alfa 1. Per questa parte, salutoni a tutti. Non ho fatto ascolto, mi direte chi c'è. Avanti Luca. Natalino, tu sei mi camminevi. Ciao Natalino, buonasera, anche a te c'è, allora. Marco Condor, poi c'è Gianni Obroffetta, Franco, Antonio Riserva, Claudio si è assentato, Gianni Doppio Room, poi se mi sto dimenticando qualcuno, non lo so. Avanti, ripeti Franco. Venga, facciamo Natalì, tutto bene? Tutto bene, quel che finisce bene. La radio che fai fra Lucina? Come? Ogni radio che c'hai? È sempre quella, Mistica, pompa di brutto, È abbastanza facile, non prende molto gusto. Molti arrivano fortissimi qua, oltre 9.30. Per la gioia del profeta, che fai, Ho capito niente, fra, che vi siete sovrappolati con Gianni, non si capisce l'uno nell'altro. Cosa ha detto? Ripeti. Ho detto che come radio è buona questa, prende pochi colpi, poi c'è anche il microfono, lo Shure che di cornice, dai. Ah, lo Shure c'è, ecco perché, Shure, non ti diciamo, vabbè, cavolo, esce bene, un bel forte, bella. Sì, quella radio, come la radio che c'è, che baracchino c'hai? Questo è un samurai. Ah, ecco, ce l'ho presente. È tipo, cos'è, tipo il 3009, così? Tipo il Pluto, di Super Galaxy. Non è come il mio, allora, nero, Questo è, vabbè, tutto metallizzato, con frequenzimetro. Ah, è bello, mi piace proprio la radio, sì. Avanti Gianni. Uguale. Oh, vagamente con la radio, però adesso, ora come ora, non ho capito quale, dai. Io ho capito, vabbè, dai, ripeti tu, prof, fai girare tu, dai. Ehi, ciao Franco, ma non sei nel tuo QTH ufficiale, giusto? Io? Capa Roger. Sì, sempre qua, perché? Ah no, boh, sentivo una radio diversa, e anche come segnale, boh, adesso forse da tanto non ci sentiamo, quindi, boh, non lo so, comunque mi sembrava che stessi uscendo da qualche altra parte, vabbè. No, sempre quello, cosa cambia, in peggio o in meglio? No, era diversa dall'ultima volta che ti stavo sentendo, niente di preoccupante, anzi, radio squillante, segnale ottimo e niente da dire. Ok, fai girare fra. Gianni. Ok, va, dai, riprendi Gianni, doppio room. Salutato Obroffetta, forse l'abbiamo sentito, dai, buonasera, Gianni Obroffetta, non ce l'avamo salutati, dai. Stasera voglio bombardare, dai, no, ma adesso lo stacco, non mi piace. Ora. Buenos Aires. Quanto stai pompando? Si bombava nel profeta. Dai, per la gioia del profeta mettiamo tutti l'eco. 2 watt e poi vabbè sale come moduli. No, arrivi bene qua, sei sul più del 30, quindi ottimo. Adesso mi state facendo incavolare, mica attacco lì il ris. Attacca, attacca lì, crepa da chi su. Fuoco. Cosa vuoi attaccare tu, Natalino? No? Sì, sono piccolino, da 6. 600. 6.000. Ma c'è qualcuno sotto? Ogni avuluto. Ok, li ho sentito bene, vieni Antonio. Carissimo, ciao Natalino, buonasera, non ti ho salutato, c'è anche a Gianni, dai. Ah, io Natalino, ripristina l'ordine. Mattina, tutti in capo senza, ed io con quattro vatti, Natalino. Che Marco. Chi è che hanno multato in zona tua? Multato e denunciato là, ma quello del secondo piano. È passata una macchina in borghese. Minchia. Tanto è pezzo di galera quello, cosa cazzo, meno. Si rarrecciano e si rapiscono. Anzi, si rarrecciano e mi vado in un chiesi, almeno me lo tolgono di torno. Marco. Marco. Gesù. Adesso ne ho dovuto saltare altri perché l'hanno tornato a cambiare, ma non ci sono mai. Oh ragazzi, vi devo lasciare purtroppo, Un abbraccio a tutti e alle prossime linee, qui mi chiamano che deve essere pronto per mangiare. Marco Iadini così. Riprende Gianni, doppio rum. Ciao Franco, buona carica quando la fai. E niente, buona continuazione, dai. E comunque dice che bisogna mangiare molto Gran Turco, mi doppio rum. Cosa? Un medico ha detto che bisogna mangiare molto Gran Turco, mais. È sicuro. Succedono effetti speciali, il popcorn. A me non ne posso mangiare, perché guardate, uno mi fa andare troppo in bagno. Allora, ultimamente la sto mettendo l'insalata. Dica, troppo tempo, potevo stare sempre a culo a comodo. No, ha detto perché così quando ci cremano, per il coronavirus, gli effetti speciali del popcorn dice che sono belli da vedere. Ciao a tutti. Ciao Fra, buona cena, alla prossima, ciao. Un pugno avanti. Buonasera a tutti. Fate un bel dissesto che guardate che passa il coronavirus, ve lo dico io. Ma ci mancavate lì a prima, cosa aveva senso? Tu ce l'hai la donna, noi non ne abbiamo. Basta andare al centro storico, lo sai quanto ce ne sono che stanno morendo di fame di Riccardo? Vai di convincere, lo sai cosa fai? 4 ore mi fai dissesto, non so di fare una, ne fai 4. Dico sei spompato. Però abbassa, Popo, sei troppo amplificato, abbassa. Esagerato, ben amplificato. E cazzo, te la devo andare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu quando la porta 7, esagerato. Adesso va bene, confermate. Meia. Natalino, confermi, o sono io che lo sentivo troppo amplificato. Oh, riprendo io che me ne sto andando, va, che devo andare a pranzo. Ciao, a cena, voglio dire. Ciao. Ciao Natalino, buona cena. Ciao Concetta. Tu verrà a tornare a casa. Scusa Gianni, c'era un'altra donna a casa tu per fare come quella che è tuo pomponio? E dove vado a uscire chi viene in casa, ma a macco? Ti sta facendo una mucca, una pecora, una pecora, e sai come fanno i pastori. Allora fanno tutto parato, a me non mi piace il coronavirus, se no un cane, quello che c'è, basta che gli fai passare l'ora. Piano, piano, se vuoi non te ne dà più quella a me, se ti sente guai. Cosa? Dimmi a tu, io sono convidato da 5 anni, solo che io sono a casa, non posso fare spostamenti, a tu. Sono a Rita. Il discorso è, se fosse per me, è che mia madre c'ha tanta patologia, mia madre è anche diabetica, e siccome lì va a lavoro, capito, è un casino, cioè è raccontato con la gente. Ma lo contagiamo e viene a casa, lo contagiamo e magari sarà in mare di salì. Infatti, sono in pericolo, cioè lo stesso, come si dice, a rischio, se a rischio anche tu, a me ho già esitta, si va esitta, esi no, è già visto che si ingomma, davvero. Io per me non mi costa niente, è quello il problema, poi ti fermano, tranquillo che ti mettono la multa. sicuro. Riprendi Gianni Lubraufetta. Ehi, sono andato a prendermi una carrozza a fare tipo Bugs Bunny, dai. Saluto di Franco, vabbè, ormai è già niente, ha già messo i piedi sotto il tavolo, quello lì. E niente, Marco, bugani il suo ecco. Adesso sta, perché nella staffa dal muro ho fatto un ripiano qua sotto la, la come si chiama la, se mi rimane un nome, la, vabbè, non c'è staccato il baracchino, ma nella staffa dal muro si sta staccando tutto. Anche un muro è fatto di ricotta mustia. No, ricotta mustia, certo già sei piuttosto, chi c'è ricotta mustia? Ci ho messo praticamente nove tasselli e tre staffe sono, no? Se sacchetti. Cazzo, ti tocca una 2 nel centimetri. Avevo su muri vecchi, andato su muri 50 anni fa, 50-60 pure. No, fidati. Aspetta. Copiaia. Più 57 sotto, vedi tu. Scusa, è così, vabbè, dai, Marco Condor. Marco Condor, comunque qua ho trovato, il coso c'è. No, vado, non sa che lo vado con lo baracchino. Basta fare così, mi non c'è problema. Ti metti il marchio con l'altro. Bello pompo. No, così bisogna fare. Ma fai tanta Coca-Cola, me non la sentivo. So, ci sono arrivato io portatile giù poco fa. Adesso domani la magnetica. Se la metto in terrazzino con un paletto così. Parla col 3009 e parla. Ah, andava. Gianni doppio ru. Gianni Palito. Marco, Antonio, maneggiando stai? Prendete un panino con salame, Antonio. No, l'abbiamo fatta, l'ho fatta io quando è domenica scorsa. Ne abbiamo fatto una a pranzo, poi ne ha levato un'altra per pranzo, cioè una pranzo domenica, pranzo e cena. E poi ne ha levato un'altra lunedì, abbiamo mangiato lo stesso, poi se l'ha continuata lì, ma c'è un'altra qua nel freezer, ne abbiamo fatto tre. Abbiamo fatto tre cose di pasta al forno e la torta. È buona, gli adrodi. Che cosa, la pasta con il cacio? No, la pasta al forno già. No, io ho fatto la pasta l'altro giorno con il cacio. Buona vita, eh. Pasta e pan? No, pasta non le metto, mi piace. È buona, sì. Ma i primi non ve lo fai? Ehi, stavo continuando a sgranocchiarmi con la carota. Marco Condor è sparito, boh, che sa lo Gumminelli tra un fornello e l'altro, magari sta rispolverando qualche altro apparato da farsi sentire, e niente, avanti a tu. Aspettando le pizze, mi sento facendo venire da fuori. E quindi oggi mangi poco, te ne fai c'è, lo credi. Ma mi sentite? Ola, sto uscendo, sì. Antonio Riserva, ci sei? Sta mangiando. Qui, lì, sì. Vabbè. Come sta la 25? È rientrata? Sì, è rientrata, ma è sempre uguale. Guarda in che senso, non sta bene. Sì, sta mangiando, ma è sempre magra. È un bel magra, deve mangiare di più, qualche ricostruzione per fare il pigliato. Ma se mangia più di me, usa blu? Non so, usa via. L'importante è che abbia appetito. Mangia tutto il giorno, la mattina e la sera. Adesso vediamo un po'. E dimagrisce lo stesso, lui? Adesso vediamo un po' cosa diamo. No, hai tutto da corso, da controllare. Adesso vediamo dopo il 5 di aprile che fa la visita medica. Ma non è la ricoverata, da cosa stiamo lì? No, guarda, non è che guarda le tue furie, perché non mi hanno detto proprio niente a me. La porta delle foglie al medico di base e poi mi faccio spiegare perché ho scritto tutto in tedesco, quindi in tedesco? Perché in tedesco? Perché non si comprende nulla quello che ha scritto il medico dell'ospedale. Geroglifici. Allora i traduttori già si dovrebbero capire. Già lo credo, me. più cultura di... Bobo. E quindi Antone si è un po' preoccupato, lui. Beh, quello sì, sempre, però perlomeno. Sì, vabbè, magari ha bisogno di vitamine, qualcosa del genere. Ha bisogno di sistemarsi a posto, mica quello che ha avuto non è una cosa normale, mi hai capito? Quindi è stata quasi 2 mesi con l'ossigeno, figurati tu. La sigaretta fa danno, poi bisogna mangiare, bisogna mangiare. Lo so infatti. Grazie, ti ho dato capire sigarette, se vuoi tocco la schiena di tronco. Ha tirato la sigaretta. E io, quella di salsiccia. E allora, vero Antonio, va, vero Antu, va, sei andato Antonio? Sì, è andato a cenare. Ho capito. Dai, ricontrollo i cosi, dai, le spinacine, ne prendi Gianni dove lo fai? Ehi, ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Dai ragazzi, io mi sgancio e vado a mangiarmi qualcos'altro, dai. Buona serata e a domani se coincide, ok? Ciao ciao! Oh, però cavolo, almeno una volta entrate dopo cena, ragazzi, facciamo una chiacchierata, Tutti i marchesi c'hanno dopo cena, il discorso è quello. Tanto non è che dovevi dici domani, o dovevi andare a travagliare, vero, doppio rum. Cosa lì? No, io sono già, ho detto dopo cena se entrate almeno una volta di tanto. Sì, vabbè, che dici di anche, dici, vabbè, non ti... Ma io, c'è il culo fino anche se sotto, ma se non è che ti direi. Vabbè già, trovati basso e parli tranquillo, sereno. Cosa, Luca, che stava parlando manco, non capisco. Ho detto te lo metti basso, ti metti le cuffie e parli tranquillo e sereno. Mi prendi il pompo un attimino, vado a controllare le spinacine. Sì, io metto sopra il letto e parlo sopra il letto quando sono di notte. Non è come da te, Ali, che sei quasi dipendente. Vai, finirà. Non posso usare né il treno, né baracchino, né niente, perché se... qui mi bussano il muro, hai capito? In questa camera qui ci va vecchia, io mi... C'è mia nipote, quindi... Il baracchino lo uso pochissimo io, per quel motivo lì. Perché gli c'è lei qua. Perché avessi da me qua? Abita qua ormai. Da 3 mesi, figurati. La madre non è... Vabbè, ma c'è il mio fratello, lo sai cosa c'è Giampiero? Giampiero lo sai che è a rischio, me. Se scendi giù con quello che c'ha lui ci passo anch'io, me. Giampiero c'è rosi, poco comunito, ha avuto di tutto, stanno fumando, c'è la finestra sempre aperta, c'è la tosse ogni tanto, ma ve la vostro. È un rischio, mi ha capito Giovanna, hai capito? Infatti non ci sto più scendendo io per quel motivo, io sto assistendo a Simona, più che altro, a lui proprio no. Neanche la cosa sto facendo venire, le infermiere, le bandate, né niente, proprio perché se prende Giampiero siamo fregati tutti qui. Appunto per quello, siccome non va a giocare il morì a Maio, più tardi è meglio è. Anima mala, non li vuoi? Ehi, vabbè, già è vero che sono caduto 2 volte, manca, mi sono sempre rialzato. Perché sta scendo basso di raio? Io passo, guarda adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3, perché c'è un microfono normale e sto parlando lontano. Adesso va bene. Se no guarda, parlo così, vediamo se mi senti bene. Ma va bene anche così, non c'è problema. E quindi è debole. Io a me mi hanno operato da poco e ho trovato anche la carta. La debolezza, c'è questo bassissimo. Simona è già più morta che prima quando l'ho ricoverata, quindi hai capito, c'è un problema ai polmoni e gli hanno messo quella specie di come si dice, ventilazione assistita si chiama. Hai capito? Il macchinario che ti allarga i polmoni. Quindi non può prendere né freddo né niente, nulla, qui a un certo punto. C'è anche l'ossigeno qua a casa, mi dice. 60 litri, 60 kg di ossigeno, c'ho nulla sono, si accende l'accendino. No, grazie a Dio non sta più usando ossigeno a casa, non lo usa per niente, ma in ospedale sì. E quindi è come fumava troppo questa cosa qua. Ho capito, è come fumava troppo. E beh, c'aveva i polmoni tutti pieni di smog. Lo so, ma purtroppo è così. Capita. Oioia. Che succede? Ci facciamo male con le nostre mani? Avvicinate il microfono. Odendo, se fumi molto, è normale che ci riescano a incantrare la polpone. E appunto per quello. Se ne andate un taglio come ho fatto io, che fumavo un 20. Vedi? Anche due pacchetti quando andavo a pescare. Ne aprivo, cioè ne finivo uno, ne aprivo un altro e fumavo. Poi c'è un vestito. Dipende da quanto ci sta. Facevo un lancio e la sigaretta. Poi un giorno ho detto basta, le ho comprate, le ho tutte strappate, tutte rotte, e non le ho più toccate. Hai fatto bene, almeno sei più tranquillo. Perché prima dicevo che ne fumo solo 5, poi solo 10, poi solo 15, poi ho detto la cosa è sempre aumentando. Alla fine gli ho detto la puntata. Alla fine poi ho 5-6 pacchetti, riesco a quello io. Passavo, dopo tanto pacchino dicevo me le compro, ma c'è quando ti veniva la voglia di prendere, neppure ho resistito. Così bisogna fare, purtroppo la sigaretta è quello il discorso. Però una cosa che ti deve nascere, se te lo sbucano gli altri non riesci a farlo. Sembra che lo fai quasi per rispetto a fumare di più. Se gli altri ti cucano le cose non le fai. E così è per dimagrire e così è per tutto. Se gli altri dicono devi fare così, tu non lo fai perché te lo dicono gli altri. Lo devi fare perché non richiedi di che sia scritto così. Perché? Anzi. Salutoni circolari a tutti. Poi Daniele. E tanto, vabbè Antone. Ciao Daniele, come va? Tutto a posto? Tutto K. Io così, cazzo. Mamma mia, lo dissi che ho passato quel giorno che ti ho chiamato, cazzo. Con l'Inpsi, dall'Inps a Rizzedo, Rizzedo all'Inpsi. Alla fine sì, mi hanno in pratica si sono pagati loro, si sono sbagliati. Perché uno ha detto coglionate all'altro, l'altro ha detto coglionate all'altro ancora. Quindi a un certo punto sono dovuto rientrare a casa, ho pagato 60 euro alla Sassa di Soccorso, me l'avevo sballottato a Giampiero da una parte all'altra. Che suga! E non hai risolto nulla alla fine? Nulla, non avevo fatto nessuna visita, perché l'Inps mi ha detto una cosa, l'Istedo mi ha detto un'altra, e quindi in pratica dobbiamo aspettare che arrivi il foglio dall'Asso per farsi la visita a lui, per fare la visita medica per la pensione, capito? Il problema è quello, che siccome l'Inps uno ha detto una cosa, cioè lui l'ha detto alla collega, collega non ha capito una fanculo, e quello che ha capito la fanculo alla collega l'ha detto un altro. Quindi a me poi mi hanno telefonato e mi hanno detto con coglionate, hai capito? Allucinante, yeah. E poi vista non ha più fatto, no? Dal giorno? No, dal giorno no, beh, e poi c'è stato il coronavirus, quindi adesso aspettiamo, sarà maggio penso. Dipende da quando la chiamerà la SL, adesso tutto riservato. Cava. Vai, riprendi Gianni Gri. Tu pensa che io ho trovato un amico che la moglie ci ha preso un tumore e in più c'ha la cirurgia. Beh, lo sai che l'hanno chiamato a revisione. Io ci sarei andato in questo, l'ho chiamato in carabinieri e l'ho fatto andare a loro. Ha dovuto apportare un'ambulanza. Beh, mi già più ho speso 60 euro per le cazzate dell'impice, figurati. Ah, sai che mi sta chiamando, si vuole deve piare le medicine, arrivo fra poco. E con le ambulanze bisogna stare attenti, ci sono quelli che ti fanno pagare di più. Tipo la mente ricordi, a me mi ha chiesto un'offerta, non mi hanno chiesto una cifra. E un'altra ambulanza mi ha chiesto 50 euro. Purtroppo è così già, chi fa offerta e chi va a tariffario. È così, sono in poche chi fa offerta, A Croce Blu offerta? No, a Rogero. Io ho chiamato la vice di Cosi, perché devo fare un altro. Ma a me mi hanno detto che quello che può dare là. Quello mi ha detto 40 euro se è vicino all'ospedale, se è più lontano dall'ospedale sono 50, siccome sono dall'altra parte della città se ne portate 50 euro, capito? Sono contro Sant'Anna, non so fare nulla. Mamma mia già, per carità, fai prima andare a piedi. Ma infatti già non mi ispirano, vedete, uno è visto di corso dall'altro, disordinato. C'è cosa per la fine di studio, per auguri, eccetera, è tutta un'altra cosa. Sono un po' coordinati anche quelli di Ussi, quelli della protezione civile, sono un po' coordinati, molto facce belle, anzi credo non facce rompe, non mi piace. E Bruci, se sono bravi anche loro, dai. Anche loro, anche loro sa che fanno offerta già. E Bruci, praticamente Mario Daga, che era da noi a Gisù, paratorino. Cava Rogero. Io ho chiamato Marciano, il presidente del Gisù, mi ha detto che non lo sono fermo. E quindi mi ha detto, guarda, chiamo a Mario Daga e mi dico di venire lì. Invece poi non ci siamo sentiti, allora ho chiamato la misericordia e sono venuti quelli di Sant'Anna, hanno messo i bigliettini sui comuni dell'ospedale. E ho detto, fate che prendete, scusa, come funziona la vedo e per portarla a casa dove abita lì, e io appunto mia moglie, se ne trovo, se mi siamo ospedale sono 40, se non sono 50. Ci hanno quel brutto vizio di fare così già. C'hanno quel brutto vizio, passano e ti mettono i santini lì, per carità. I belli forci sono fatti qualche ammanto. Oh, io, guarda che c'hanno anche il 118 al sorso loro. Ma loro perché il 118 li hanno? E allora, a Sant'Anna, c'era al sorso. Quello è già il primo impatto, diciamo, metti presenti, vuol dire molto, vuol dire la buona che mi ha portato a casa la mortale e la uomo non ti mancano più però nella casa che abbiamo parlato di non parlato di altro di cosa sì, questo è ho fatto mancanza di tempo per ho fatto delle domande, del progetto, per tanto tempo, ma non ho fatto alcuna cosa per me. Ed è veramente difficile, ma anche caricato, facendo, io potevo, io dovevo farlo. Tu a me, per esempio, che mi sono fatto un io scendo e volevo la pelle, piano piano, una cintura per non farmi fare le scale per l'altro piano, portando il pelo. Cava, cava. Come ti hanno messo già in sedia? No, non pare. Quando mi hanno portato all'ospedale io facevo due passettini e basta, non è che mi hanno portato in barella. Adesso non lo so se fare portare in sedia perché la gamba la devo tenere appoggiata. appoggiato, se la scegli a cardiopatici non c'è appoggio a piedi, adesso non me lo ricordo se c'era. Ma se non c'è appoggio a piedi io non posso stare, non devo piegare la gamba, non deve essere pubblica, perché se la piego mi fa male. Capo, e se non ti fai scendere con una sedia a rotelle e poi ti fai mettere in barella già? Infatti, tanto devo fare la lastra e poi salire su e far la bici. E si conferma? Se sapevo che anche voi facevate così, avessi ammazzato. E così mi avessi sentito il peso. Epa. Perché io ai privati ci sto poco, capito già, io sono sempre segregato giù alle cliniche. Fai trasporti e poi? Di cliniche, sì. Ah, fisso, no, io facevo tutto, facevo trasporti, 118, facevo tutto. Ce n'era una che faceva 118, l'altra che faceva i trasporti. Poi se serviva l'ambulanza per un incidente andavamo lo stesso, però solitamente facevamo così. E chi capitava, se l'altra ambulanza era uscita 118, l'altra prendeva e andava a fare il trasporto. Cava, cava. No, a me privati non mi piace più di tanto già. Zero. Ti mesci la mano, non è che non ti piace. Allora una volta mi è capitato la tipa un bag rosso. All'ultimo piano senza ascensore. Abbiamo fatto 4 piani senza ascensore. Una settimana con le braccia che non riusciva a muovere dai dolori. Ti credo. No, non è che con l'azienda sia diverso, Perché anche lì già devi stare a spostare e fare su e giù da un letto all'altro. Quello sì, ma da un letto all'altro già sei già vicino, capito? Il brutto è salirla la roba, quando c'hai il peso che lo devi salire in alto, ti debba arrivare. Almeno da un letto all'altro ti aiutano anche loro, molte volte gli ammalati ti aiutano. Se ha peso molto, va bene. Già si sa, lo si mette uno dall'altra parte e lo avvicina e gli altri non lo guidano, ma quando ti aiutano è meglio. È così già. Ciao Gai! Ma buona è questa modulazione già, o è troppo alta? No, a me va bene. Non è neanche compressa, no? Va bene. Abbassala per la notte, già si può abbassare. Per la notte, aspetta. Guarda adesso, versione notturna. Sì, e tutti lasciano stare. E per il salotto, per fare il salotto. Perché non c'è la luce, perché magari uno ce l'ha, l'altro ce l'ha fatta, l'altra è abbassata, l'altra, se no il corpo va per lo forte, già si sente, non per le scarpe. Non ammetto, agli istituti, non più di tanto. Cappa Rogero, è un porco dove c'è andato adesso, finito. Sei basso di radio adesso già. Adesso guarda, 1, 2, 3 pronto. Di lusso. Perché mi dimentico sempre che questo microfono è normale, capisci? Lo uso così, lo uso da lontano come microfono amplificato, che non tolgo. Questo qua poppa di meno, dai, però se lo lasci vicino va bene, va bene già, va bene. Se lo metti così sì, se lo sposti è troppo basso. E devi parlare con la bocca attaccata, dai, attaccata. Cava Rogero, vabbè Gianni, dai, che adesso ti saluto, vi saluto, che qua è pronta la pappa. Va bene, dai, salutami tutta la tua famiglia, dai. Ah, ma altrettanto, dai, il contraccambio da parte loro. Salutami Antonello quando rientra. Antonello mi pare che a me non mi trovo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.